L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per un'ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Io detesto l'espressione terrorismo islamico, nel senso che questo è terrorismo che si rifà a un Islam radicale. L'Islam radicale non è terrorismo, è un universo. È guerra santa islamica contro l'Occidente cristiano e giudaico. Oh. Ma quando lo vorrete capire? Ma questo? Fatto da terroristi. Guerra santa. Fatta da terroristi. Fatto da terroristi. Fatta da terroristi. Fatto da commercianti, fatto da giovani delle banlieue, fatto da intellettuali, fatto da spie dei servizi segreti, fatto da eserciti, fatto da califfi, ma ancora non l'avete capito! Però, ma che devono fare ancora per fare io dico che ma che cazzo dici terrorismo? Aspetta, guerra santa islamica contro l'Occidente cristiano e giudaico. E se negate queste cose siete un branco di coglioni. Preferiamo essere un branco di coglioni che ragionano ancora con la loro testa. Tranquilli, però, no? Il non c'è problema. Caro David, ti leggo dopo questa meravigliosa intemerata di Ferrara ieri sera, ti leggo quello che scrive un assessore di un piccolissimo paese sardo, per carità non significa nulla, una signora che si chiama Giovanna, non dico nemmeno il cognome perché non è così importante. Senti, non accetto richieste su Facebook, non accetto richieste di amicizia da musulmani, spero solo che il mondo vi elimini come Hitler per errore ha fatto con gli ebrei. A un certo punto oggi sembrava ci fosse il caos più pazzesco a Parigi, no? Poi adesso tutto sembra essersi risolto con la morte degli ostaggi. Tre giorni di delirio. Però soprattutto oggi. Ho trovato geniale, perché bisogna ridere poi in alcuni momenti, nonostante quello che accade, noi possiamo ridere, ce lo possiamo permettere e non ce ne priviamo di questa roba qui. Ho trovato geniale quello che scriveva Spinoza, spinoza.it. Ah, come no, certo. È il momento di riprendersi la Gioconda. Non se ne accorgerebbero neanche. L'ho trovato geniale, non so perché. Cioè nel delirio con l'alimentari kosher kasher, però kasher, sì, cominciamo scusami, col dire le cose e poi tutto quello che dà. L'alimentari kasher è preso d'assalto con gli ostaggi. Che per fortuna state liberati tutti, per sì, fortuna. Sì, però con i morti, E poi i due ciuchi là, come si chiamano? Ciuchi è quell'altro. Ciuchi, sì, no. Come si chiamano questi qua? Vabbè, uccisi, insomma, assediati, poi uccisi. Eccetera. Cioè, c'è qualche genio e qui è venuta in mente questa roba, la vorrei conoscere, si chiama Fissore. La Gioconda. È il momento di riprendersi, poi anche adesso sarebbe il momento. È il momento di riprendersi la Gioconda, non se ne accorgerebbero neanche. Centinaia di migliaia di persone schierate, qualcuno entra, si porta via la Gioconda e ce la riportiamo in Italia. Ferrara ha anche detto che bisogna radere al suolo lo Stato Islamico, cioè dove c'è l'ISIS, là, come diavolo si chiama? Dalla Siria di Raqqa all'Iraq di Mosul si costituisce uno Stato di un panzone che si fa chiamare al-Baghdadi e che dice di essere il califfo, prima di tutto si ride con Charlie Hebdo e poi si mandano dei bombardieri e un esercito di 200.000 uomini che distrugge, rade al suolo lo Stato islamico. E poi dice Ferrara, la campagna Je suis Charlie è una campagna ridicola. Meno male che io non ho scritto Je suis Charlie, eh? Però... sentiamo. In televisione si parla sempre o di Je suis Charlie Hebdo, che è un modo ridicolo di solidarizzare dopo la morte dei vignettisti, perché invece prima della morte dei vignettisti tutti stavano a dire che erano degli islamofobi. Così, tutti dicevano che erano, tutti no, però molti dicevano sono islamofobi, sono provocatori, perché beh, mettono, non ne condividevano, perché mettono Maometto col culo di fuori, non ne condividevano, perché mettono satira, il Papa, il Papa che si inchiappetta con la Madonna, quello che beh, questo è legittimo non condividerne, no, la satira, però dicevano che erano sono islamofobi, uno dicevano che sono islamofobi, è un giudizio legittimo, lo ha fatto il Financial Times, che non è esattamente allora, non è un covo di comunisti reazionari, ma non puoi adesso passare dall'attacco a questi qua, no, ma sto semplicemente spiegando quel che è successo. Però senti, cioè, una cosa, fa benissimo Ferrara, anche difesi perché prima, perché in Occidente, caro Giuliano, caro Cruciani, cari tutti voi, esiste il diritto di critica nell'Occidente, non lo devi mai perdere quello, eh? Allora, non è, che... è talmente vera questa cosa che molti di quelli che fanno adesso, no, che mettono le magliette, che dicono siamo tutti Charlie eccetera, a destra e a sinistra, spesso erano allergici alla satira, allergici ai toni forti, allergici alle metafore, allergici agli attacchi della stampa sotto forma magari di una vignetta. Per esempio Brunetta, signor Brunetta, adesso non so cosa abbia detto in questi giorni, ma sicuramente non si sarà fatto mancare qualche Je suis Charlie o cose di questo tipo, il quale accusava Vauro di essere razzista. Adesso non so se l'accusava per una vignetta o per altro, ma credo per una vignetta in cui lo raffigurava come un nano. Ma io non vado da Santoro perché Santoro è un vignettista che è razzista, che più volte ha proposto delle vignette assolutamente inaccettabili, e quindi gliel'ho detto direttamente, non verrò mai da te finché continuerai ad avere un vignettista con quelle caratteristiche. Punto. Oh, ma vogliamo dimenticarci di quelli che alle volte la satira ferisce, diciamo. Ma vogliamo dimenticarci di quelli che se la prendevano con recentemente con Virginia Raffaele perché imitava la Boschi? Per esempio la Boldrini dispiace, certo, la satira sulla Boschi e anche quella sulla Pascale. Cioè il presidente della Camera, che adesso tuona sulla libertà di satira, sul massacro di Parigi, rompeva i coglioni su questa roba qui, sul fatto che un'imitatrice facesse il suo mestiere. Allora, a me è dispiaciuto vedere la satira di Maria Elena Boschi, perché trovo vedere che la settimana prima anche quella su Francesca Pascale. Allora, quella non l'ho vista, ma se aveva gli stessi accenti così sessisti, probabilmente sì, anche quella mi sarebbe dispiaciuta. Oggi in aula alla Camera un leghista che si chiama non ha tutti i torti, però Grimoldi, signor Grimoldi. Temevo. Signor Grimoldi, temevo, che cosa ha detto, diciamo, signor Grimoldi? Temevo. La Boldrini parli di infibulazione, non... Ti rendi conto? Senti. Ti rendi conto? Bellissimo. Forze però. Speciali mobilitate 80.000 a Parigi e Grimoldi. Cioè, improvvisamente Grimoldi si alza in piedi e dice l'infibulazione. Dai, com'è che dice Ferrara? Siete un branco, com'è che dice Ferrara? Siete un branco, isolami solo quello, per cortesia, che devi diventare i coglioni. Siete un branco, solo quello, isolami, siete solo quello. Cioè, stai dando del coglione a Grimoldi? No, siete tutti quelli che usano sti argomenti, lui, ma no, tutti. No, erga, ma voglio dire, siccome lui attaccava il presidente della Camera perché è sempre lì a difendere le donne, però dice ma cosa c'entra? Forze speciali impegnate, occhi di tutto il mondo, Grimoldi, concentrate su Parigi, si alza Grimoldi, basta! Io vorrei sentire il presidente della Camera, l'onorevole Boldrini, invece di fare i convegni sul termine presidenta per i diritti delle donne, parli del fatto che l'Islam dice apertamente che la donna è inferiore, parli di infibulazione, parli di quella ragazza in Iran che che ha fatto un anno di carcere per essere andata allo stadio. Parli di queste cose, non delle cazzate che il presidente. Onorevole Grimoldi, per favore, ha anche finito il tempo, grazie. Abbiamo già un ospite che viene dalla tua città, Parenzo, però c'è un altro elemento. Pasquino, che è di solito un politologo molto, no? Anche sì, di sinistra, rispettabile, moderatissimo, stato, cioè, moderatissimo. Grande esperto di sistemi elettorali. Senti cosa dice. Sanno che sono rivolto agli islamici estremisti, diciamo, no? Io ci ho riflettuto e ho l'impressione che sia la sfida di coloro che sanno che sono inferiori e che quindi invidiano il nostro stile di vita, invidiano la nostra libertà, invidiano la libertà delle donne nell'Occidente, invidiano una cultura che è anche tecnologicamente avanzata e cercano di schiacciare tutto questo perché non sono riusciti a raggiungere questo livello e quindi lo fanno con le armi. Beh, no! Quando qualcun altro parla di civiltà superiore, gli rispondono sei un nazista. Lo dice Pasquino, che è di sinistra, e tutti quanti stanno zitti. Cioè Pasquino, un politologo di sinistra, dice che ci sono gli islamici, parlava in generale, gli islamici come inferiori, noi siamo superiori, e cercano di schiacciarci perché, capito, Pasquino? Società più sviluppata dal punto di vista dei diritti, su questo no, non c'è ombra di dubbio. Questo dice, questo ha amico mio. Ma è con noi sul piano dei diritti l'uomo l'Europa. Che vuole la tortura e vuole torturare gli islamici anche con pane, salame e non so che cosa, Vangelo. Roberto Marcato, Lega Nord, Presidente del Consiglio Comunale di Padova. Buonasera. Buonasera e viva San Marco. No, non ho capito, eccola. Buonasera e viva San Marco. Vabbè. Mancato, lo so, purtroppo succede. In una spelonca, purtroppo è la radio, succede. Come dice Cruciani, è la radio. Guarda, non si sente, non si sente, è la radio. Islamici francesi che dicono hanno fatto bene ad ammazzare quelli di Charlie Hebdo. Sono dei fascisti, delle merde. Io Sharif lo conoscevo. Guarda questa vignetta. Il Corano è una merda, non ferma neanche i proiettili, c'è scritto. Sono dei razzisti, ma tanto è un complotto. Non sono stati loro. Io lo conosco, Sharif, non è stato lui. Ma fossero stati loro, li capirei, avrebbero fatto bene. Il Charlie Hebdo è razzista e questa è la prova. Proviamo l'uomo. Eccoci. Che vuole. Eccoci, Marcato, dov'era? In una spelonca, dov'era? No, no, io sono sempre fermo qui. Senta, ma perché vuole dare. Perché vuole dare. Esatto. Perché vuole dare pane e salame e anche un po' di Vangelo agli islamici? A quali islamici poi? Non ho capito questa cosa, me la spieghi? No, guardi, questa è stata un'affermazione che ho fatto sull'onda emotiva dopo aver visto. Quale onda emotiva? Dopo aver visto quello che era successo, ma io non mi voglio assolutamente calare al loro livello. Questi assassini. No, ma mi spieghi il pane e il salame? Mi spieghi il pane e il salame? Ma è stata una, come dire, una provocazione sull'onda emotiva, però ripeto, non. No, ma che vuol dire una provocazione? Cioè, bisogna. Ha chiesto scusa? Bene, meno male. Non ho capito. Un leghista che chiede scusa? Non voglio assolutamente. Non voglio scendere a livello di questi. Ho capito, ma se lei dice. Ma è già sceso lei. Quando uno dice bisogna obbligare a leggere il Vangelo, ma chi soprattutto? Cioè, secondo lei. Guardi, c'è un dato di fatto che le immagini le abbiamo viste tutte e ci sono dei signori dell'ISIS che prima di tagliare, di sfruttare la testa agli occidentali, gli fanno leggere versetti del Corano. Sì. Il fatto e è allora? Che se noi facciamo la stessa cosa scendiamo al loro livello, per cui non è corretto fare questo. Certo che se li dovesse, ormai li hanno presi, ma se li avessero presi vivi, ogni mezzo è lecito per farli parlare, perché ci devono dire tutto quello che sanno, perché col cavolo che sono cellule isolate questi signori. Cioè lei è a favore della tortura, a favore della tortura. Sì, assolutamente. Beh, sì. Assolutamente sì, un paese serio deve usare qualsiasi mezzo per tutelare per ottenere informazioni. I propri cittadini. Scusi un attimo. Marcato, scusi un attimo, voglio capire, ma voi avete detto attraverso il sindaco Bitonci che devono andare via da Padova gli islamici che non si dissociano da quello che è successo, ma che vuol dire, scusi? Ma guarda, guardi, allora non, credo che anche lei abbia visto, no? nei paesi islamici, non ho visto cosa. Qua, nei paesi islamici quando succede qualcosa di grave le piazze si riempiono, no? E sì, credo che là addirittura siano più in piazza che a casa. Vabbè, allora? Qua le piazze sono piene di islamici che siccome hanno trucidato dei loro connazionali, perché se è vero che sono qua, sono francesi, sono italiani, sono loro connazionali, perché non riempiono le piazze per dire di no? Vabbè, ma quello... a me delle dichiarazioni fatte dall'ufficio stampa non mi interessa. Cioè lei dice ma concretamente che succede a Padova? Cioè se uno non si dissocia in che modo? Dovete cosa vuol dire, come fate a cacciarlo su uno che non si dissocia? È persona non gradita a Padova. Ma che succede? Ma che gradita a Padova. E concretamente che succede? Lo devono sapere. Cioè se un islamico lei c'è la libertà di opinione, però scusi, lei passa per strada, ma la libertà di opinione nei confronti di qualcuno che va a trucidare lei passa per strada, no? Incontra un signore islamico, esatto. E chiede: lei è d'accordo, si dissocia da quello che è successo? No. E che fa a quel punto? Io farò di tutto perché il Padova sia inospitale per questi signori. Vabbè, ho capito, ma che vuol dire farò di tutto perché Padova sia inospitale? Intanto noi non daremo mai la possibilità di fare delle nuove moschee, anche se ce l'hanno. Ma ci sono già. Non lo faremo. Sì, ma non le è sbagliate. Perché pregheranno per strada. E se uno prega per strada, se uno si inginocchia per strada? Non si può, se intralcia il traffico. Ma scusi, se uno si mette in mezzo a una piazza a pregare verso la Mecca, che succede? Scusi, non si può, io posso mettermi con una bancarella a vendere cianfrusaglie? No. Ma no, che volete fare? Un'ordinanza per multare, che volete fare? Adesso ci penserà il sindaco Bitonti. Eh no, ma lei pure è presidente del Consiglio Comunale, leghista e tutto. Fino nel midollo. Ma Maometto, per lei chi è Maometto? Signor Maometto. Ho capito, ma... Guardi, non mi esprimo. Se il Maometto è quello che viene urlato da assassini... Credo che non possa essere il dio a cui fanno riferimento. Poi io rispetto tutte le religioni. Vabbè, quello... Però c'è un dato. Beh, no, se non fa così il moschè, no. Non si sono dissociati. Ma chi? Ma da che cosa devono dissociarsi? Ma un sacco di musulmani si sono dissociati. Hanno riempito le piazze per dire di no. Hanno riempito le piazze. Allora, che dissociazione? Come no? Stanno organizzando una manifestazione. Ma Maometto, secondo lei, è un estremista? Cioè, Maometto no, qualche imbecille che segue Maometto sicuramente. No, siccome un suo collega della lista Bidoncia ha detto che Maometto è come Hitler. No, non ha detto. Beh, come no? Hitler, Mussolini e Maometto sono la stessa cosa. No, lui ha condannato, come condanniamo. Vabbè, quello è scontato. Ha condannato un Islam che c'è, e che è un Islam assolutamente fondamentalista e terrorista. Questo è un dato di fatto. E il fatto che non scendano in piazza mi fa davvero pensare. Stanno organizzando la manifestazione per sabato. Con persone che non scendono in piazza per dire di no. Questo è il problema. Parenzo? No, voglio chiedere una cosa. Vabbè, ma questo Marcato, se un Veneto all'estero commette un reato, lei non è che va da tutti i padovani e gli dice sei d'accordo con quello lì? Perché è ovvio che ti dicono di no, che non sei d'accordo con quello, no? Con la bandiera del Veneto. Come fai a chiedere agli islamici che sono lì? Quelli sono lì. Andando a San Marco fa un massacro, tutto il Veneto scende in piazza per disordine. Però scusi, lei pensa che ci siano troppi islamici a Padova? No, ma non è questione di troppi. No, ma per dire, lei pochi. Pensa che siano troppo che siano troppi? Ci deve essere un contingentamento assolutamente. Meno islamici a Padova. Su questo, guarda, non c'è dubbio. Sa che ci sono dei bambini a Padova. Però scusi, gli islamici che sono nati lì. No, ma io andiamo fino, sono dei padovani, andiamo fino figli in fondo. Di islamici? Lei sogna una Padova libera dall'Islam, diciamo free la verità. Islam, free. Ma perché c'è qualcuno a Padova che vuole una Padova islamica? No, ma cosa vuol dire? Padovani, no, mi hai capito, scusi. No. Lei metterebbe il cartello. Metterebbe il cartello. Ma metterebbe il cartello Padova free Islam, lì come si dice. Denuclearizzato, cioè, lei, no? Lei sogna una Padova libera dagli islamici, diciamo la verità. No, ma io sogno una Padova cristiana, democratica, che non sia in mano all'Islam. Ma cosa vuol dire la Padova cristiana? ma non ci sono. Ma, Padova, ma cosa vuol dire una Padova cristiana? Padova, ma cosa vuol dire una Padova cristiana, amico mio? Noi siamo un baluardo contro questa gente qua. Ma stiamo scherzando? Cioè, è meglio non che consegneremo no... mai la Padova all'Islam. Vabbè, d'accordo, ma consegnare che cosa vuol dire? Non è che... No, me l'avete chiesto voi se no. C'è una Padova islamica, ma non esiste. No, c'è una Padova islamica. Tollerante, democratica. Sì, ma quindi sarebbe meglio che non ci fossero islamici, questa è la realtà. No, sarebbe meglio che ci fossero pochi islamici, pochi che fossero pochi quanti integrati che rispettano le nostre pochi regole. Quanti, scusi, pochi quanti? Non lo so. Che ne so, ci sarà un limite, al massimo lei pensa che ci possano essere 20, 30, 50. 500, 200, 1000, uno, avrà un'idea, no? Ma non è una questione, non lo so. No, cioè, lei ha detto pochi, lei ha detto pochi, mica io. Diglielo alle aziende che li hanno... Allora, la Francia, avesse sì. Avuto meno islamici... Ma no, ho capito, ma siccome... Oggi avrebbe sicuramente meno problemi. Allora, c'è un punto di rottura, non, la convivenza è appunto, possibile... Appunto, quanti islamici ci devono essere, più o meno? Non lo so dire, non sono uno statistico. Ma no, ho capito, se avrà un'idea, al massimo devono essere 1000, 500, 700, possiamo sopportare al massimo 1000 islamici. Uno dice, vabbè. Possiamo per una percentuale che non dia problemi, visto che a Padova, tra l'altro, nel carcere padovano, tutti quelli che sono in galera, oltre il 70% sono non italiani, qualche problema evidentemente. Sì, diciamo, c'è, no? Qualcuno anche del consorzio. Scusi, Nuova secondo Venezia, lei le aziende di Padova devono assumere più italiani rispetto a magari persone di religione islamica? Vabbè, su questo non c'è ombra di dubbio. Cioè, noi ci siamo candidati con uno slogan dicendo prima Padova, prima i padovani. Prima i padovani, e se quelli sono padovani e se ci sono islamici sono... padovani? Esatto. Se ci sono islamici padovani, voglio dire, se nati a Padova, cioè italiani, sono, ci rispettano sono. Le nostre regole, le nostre leggi, vabbè, i nostri usi e costumi, non c'è... No, vabbè, guardi, non è assolutamente scontato, perché nel momento in cui a Padova un mese fa arrivano dei profughi o presunti tali che si rifiutano di farci fare la visita medica obbligatoria per accedere poi ai centri di accoglienza perché i medici sono donne e l'USL è costretta a richiamare medici in pensione maschi e lasciateli lì. Forse dipeso da me non li avrei sicuramente, li avrei presi e rispediti, ma non esiste. Facciamo chiudere, cioè, non li avrebbe curati, dice, non li avrebbe curati. Non è questione di cura, dovevano fare le analisi per capire se potevano andare o no, meno. Ma su questo sono d'accordo con lei, no? Su questo sono d'accordo con lei. Io per niente, ma non importa, perché è una questione di rispetto. Siamo una nazione con l'anima fragile. Questo è il problema. Nulla a che vedere col terrorismo, questo, nulla. No, comunque, se uno è di fede... Questi signori si permettono di venire a casa nostra. Guardi che se un testimone di Geova va all'ospedale... Siamo deboli di fronte a queste culture, siamo deboli. Ma deboli di che cosa? È una questione di rispetto della diversità. Fare il bagno. Se vuoi fai il bagno con i maschi, altrimenti te ne stai a casa tua. Questo è vero però. Questo no, è vero. Mi interessa. Non questo mi è buono. Interessa. Questo di questi sono... Ma perché non capite? Ma guarda che... Adesso li vorrò vedere in faccia al prossimo Natale quegli imbecilli che vogliono togliere i presepi e non cantare le canzoncine di Natale perché altrimenti feriscono la loro cultura. Scusi, lei che fare ma perché uno deve cantare per forza le canzoncine di Natale? Ma di cosa perché stiamo parlando, ragazzi? Sono la nostra tradizione, noi siamo quello che siamo canzoncine stati di Natale, adesso. Fa scoppiare Marcato, fa scoppiare la terza guerra mondiale per le canzoncine di Natale. Marcato. A voi piace un mondo così? Dove si devono cantare per forza le canzoncine di Natale? A voi piace un mondo così? Marcato, ma Cruciani, ma di qualcosa anche tu, ma tu vuoi un mondo dove sei obbligato a cantare le canzoncine di Natale? No, ma domani mattina arriverà un'altra cultura che dice tutti quelli che hanno i capelli castagni. Io devo ancora capire qual è il limite dei musulmani che lei vuole a Padova, comunque un giorno me lo dirà. Senta, no, io però una cosa, Marcato, ma lei che pensa di Toscani? Il signor Toscani. Guardi, Toscani è uno che sicuramente ha un problema. Ha fatto delle cose importanti. Un fotografo. Ha dato segnali di rottura nella comunicazione. Vabbè, d'accordo, però adesso non rivediamo oggi, tutta la oggi la sua vena artistica si è drasticamente inaridita e cerca un po' di popolarità attaccando la Lega. Questo è un signore che ha poche cose da dire e offende i leghisti. Comunque, non ha nulla da dire artisticamente, si limita il pane e salame. Il pane e salame. Era una grande provocazione, lei se l'è fatta sotto e non la vuole ripetere, questa è la realtà. No, no, guardi, io non ho nessuno, guardi, se è una cosa che io non ho è la paura. Ho capito, torturerebbe, torturerebbe con le sue mani un islamico pur di ottenere un'informazione, torturerebbe... Dipendesse da me, sì. Eccolo qua. Cioè, lo farebbe con le sue mani? No, perché devono parlare, devono dirci. Questi non sono due allora, facciamo un bel rastrellamento di islamici a Padova. E no, così non c'entra, perché scusa, dica, che ne so, magari sanno qualcosa, magari sanno qualcosa, che ne sappiamo. Su qualche cellula in Italia, su qualche cellula in Italia. Il fatto che noi siamo l'unico paese al mondo che ha un ministro degli interni che dice: noi abbiamo tutti schedati questi possibili terroristi, e allora vai a prendere e metti in galera. Comunque lei vuole anche obbligare a leggere il Vangelo, obbligo di lettura. Perché non dice che i musulmani devono essere obbligati a leggere il Vangelo nelle classi? Se conoscessero anche il nostro Vangelo, forse si renderebbero conto. E no, lo metto obbligatorio nelle scuole di Padova, se qualcuno glielo permette. Vabbè. Toscani dice che il cristianesimo, i cattolici hanno ucciso più dei musulmani. L'Islam da solo non fa male, capito? Va bene, allora questo qua è il nome di una religione. Il problema è il fanatismo religioso. Poi di quale religione sia non me ne frega niente, però sono tutte uguali le religioni. Ha fatto più morti i cattolici nella storia che i musulmani, lo sai questo, no? Leggi un po' di storia. Breivik ha ucciso nel nome del cristianesimo. Arriva, In Norvegia un certo Breivik, cristiano, in nome di che religione, ha ammazzato quanti giovani? Allora, non è una questione di appartenenza alla religione, è una questione di pazzia. C'è della gente pazza al mondo. Poi se la prende con tutti, con Sallusti. Soprattutto con Sallusti, però, devo dire, Parenzo. Soprattutto con Sallusti. Sì, eh. Sì. Sallusti ha la mentalità da Hitler, oppure un'altra cosa, qualsiasi cosa. Ha sparato a zero a Matrix, qui alla Zanzara, contro Sallusti, la faccia da ariano, parla di superiorità della razza. Superiorità, diciamo, nostra, della nostra civiltà, piuttosto quella islamica. È un pazzo! È un fanatico e è un terrorista. No, noi siamo una civiltà superiore, perché noi non uccidiamo nessuno perché fa una vignetta. Noi siamo civiltà superiore. C'è la faccia d'Ariano, c'è la faccia d'Ariano. Lo siamo allora, scusate, anche i nostri che sbagliano. Hanno condannato a morte delle donne perché guidano una macchina e le chiama che siamo la stessa civiltà. Ma lei è pazzo. Poi contro Salvini, Hitler parlava come te. Toscani è la gioia di anche qualche Hitler parlava solamente. Che non Hitler non l'ho mai visto col fucile in mano. Mi fa tenerezza. No, Hitler tenerezza. Non l'ho mai visto con un Kalashnikov. Hitler parlava come te. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Almeno 4 ostaggi sarebbero morti nel blitz al supermercato Kosher, ucciso il terrorista Koulibaly, ma la sua compagna non sarebbe stata con lui. Nell'intervento della polizia a De Martin, uccisi i fratelli Kouachi, barricati in una tipografia da questa mattina, in salvo l'uomo che non era tenuto in ostaggio. La Francia esce da un incubo durato 56 ore, ma il bilancio delle vittime e dei feriti diventa sempre più pesante. Stasera Hollande parla alla nazione. Attribuita ad Al-Qaeda dello Yemen la paternità delle azioni, l'ISIS e gli assalitori sono eroi. Dall'Algeria l'allarme per un clamoroso attentato in Francia. Ininterrotte le manifestazioni di solidarietà a Charlie Hebdo, che prepara il ritorno in edicola con 1 milione di copie. La redazione è ospitata da Liberazione. Alfano alla Camera, 4 italiani tra i combattenti stranieri dell'ISIS, più controlli sull'immigrazione, conosciuto alla nostra polizia, uno dei terroristi. Quanto accaduto a Parigi è un atto ingiustificabile, così il segretario generale del Centro Islamico Culturale d'Italia alla Grande Moschea di Roma. Ascoltatori, Giovanni Bergamo. E poi c'è una sorpresa. Che qui, c'è? Però. Che è successo? Che è successo? In studio ho avuto un'invasione, di un'invasione chi? Femminile, di rom, di non di femmen. No, femminile. In studio. Vabbè, femminile è sempre buono. Che è successo? Che è successo? C'è qua una persona che devi riconoscere. Venga qui, caro, un attimo. No, ragazzi, sono le solite cose. Dai, no, fammi sentire gli ascoltatori. Questo è uno scoop vero. Senti la voce solo, se la è già stata da noi, senti. Buonasera, come stai? Chi è? Barbara, chi è? No, che no. Barbara. No, mi sembra... che voce. No, stai attento, poi ascoltatori, benissimo, battaglia, isla, tutto quello che vuoi. Ma è una sorpresa per te questo, senti un attimo. Lo so, ma non sono venuta apposta. Ma chi è? Nike, chi è? No, Ornella, no, Ornella. Che livello, no. Ma come ti prometti, dai? Aspetta, un attimo, continua, ancora poi ascoltatori, poi ritorniamo. Prego. Continua. Vai, dica, dica. Allora, Lucrezia Borgia, dica, cara. Cara Lucrezia Borgia, dica. Come hai trascorso il Capodanno? Come avete trascorso il Capodanno? Senti la voce. Dai ragazzi, però non lo so, non mi fate l'indovinelli, che adesso sto pensando intanto ad altro, dai. No, vabbè, non ti preoccupare, poi lo scoprirai. E qui con me una persona, un ospite particolare. Ma perché è venuta a fare là? Non che lo è venuta so, a fare? Una mia amica mi ha mandato un messaggio. Ha una bella voce, ha una bella voce, chi è? Ma la conosci, è già stata da noi. Ma chi? Poi... Veronica Gentili, chi è? Ma che? Ma che ne so, è stata avanti, da noi, un sacco di gente che è stata da noi. Nella prossima pausa ti spiego, vai avanti, lascia stare. Sono qui due donne venute per te ad ascoltarci. No, per me no, perché sono a Milano, per te saranno venute per te. Erano qua, poi ti vuol salutare, andiamo avanti con la trasmissione. Ma che bello, il mondo occidentale rispetto all'Islam, rispetto a questi assassini, qui si parla di donne. No. Il mondo occidentale, il sesso, la libertà. Esatto, esatto. Questa è la risposta da dare. La vita contro la filosofia della morte. Brava, la vita, l'Islam. La vita contro la filosofia della morte. Ti adoro. Chi sei che ti adoro? Andiamo già avanti, dopo. Già ti adoro, lascia, solo per lascia questo. Lascia la suspense, perché la radio ascoltata deve capire che anche tu non hai capito un cazzo. No, non ho capito. Qui. Francamente non allora ho capito. La voce non mi è nuova. La voce non mi è nuova. Poi dopo, più tardi. Ma abbiamo mai fatto sesso noi? Io con questa persona? No, che ne so, sto pensando così posso restringere il campo delle persone, no? Assolutamente no. Assolutamente no. E resterà un tuo sogno. No, che ne sai, magari beh, non, è, sì, magari non è nessun tipo. Il tipo per te. No, no, no, invece no, siccome appena scoprirai chi è. Scusa, almeno non... Anzi, chiudiamo la telecamera lì perché sennò a Milano gira, no, scusami, non cara, c'è, la telecamera non c'è perché nessuna. Sennò lì a Milano scoprono. Scusate. Va bene, andiamo avanti con la trasmissione e poi dopo parliamo con la signora che è qui, quella bellissima signora che. No, ma perché poi questa già dice andiamo che io voglio fare sesso con lei, ma non ci penso nemmeno lontanamente. Io dico solo Lucrezia Borgia, poi dopo ragioniamo. Lucrezia Borgia, ragazzi, suggeritemi qualcosa voi su Facebook. Avanti su internet, con la trasmissione, divento che c'è pazzo. Stato un blitz pazzesco oggi, su che ci sono robe più importanti. Dai, avanti, Giovanni da battaglia. Bergamo, dai. Ciao Cruciani, ciao Parenzo, volevo sapere, ciao, se, volevo fare un paio di domande a Parenzo. Sì. Allora, una, sarebbe contenta, sarebbe contento lui se sua figlia sposasse un islamico? Ecco, avanti, tua figlia che sposa un islamico, questa è buona come cosa, tua figlia che sposa un islamico. Ma scusi. Ma questa scusi è ottima come provocazione, ottima. Ma no, ottima. Ma, allora, ottima. Speriamo che. Ma chiaramente. Speriamo che cosa? Che non sposi un islamico? Ma no, io vorrei che sposasse una persona che la no, ama. No, di la verità, tua figlia, mia figlia, tu ebreo. Sarà solo con papà, primo. Sarà solo se innamorata con ma papà. Ma questo lo sappiamo. Se tua figlia sposa, tu ebreo. Se tua figlia, e tua figlia pure ebrea, immagino, ma no? Mi, se tua figlia, ovvio. Chiaramente, non è che uno c'ha l'imprinting, eccetera. Magari beh, diventa, magari ma diventa cattolica. Avuto, magari no? Diventa cattolica, magari diventa. Ma che tu ne so, avrai avuto un imprinting. Ogni famiglia dà un imprinting. Magari diventa ma buddista. Sempre cresciuto nella giungla. Ma perché non può diventare buddista? Ma che sei, non può diventare buddista? Ma se vorrà, certo, ma avrà avuto un imprinting culturale che io ma magari dato. Diventa buddista, ma magari diventa buddista. Magari diventa buddista, non frequenta. Se è felice così, benissimo. Se ottimo, gli piace un mondo ottimo. Così, benissimo. Ma come un mondo così? Che vuol dire? Per forza ebraica deve diventare. Per forza. Ma io gli ho dato una tradizione. Io le ho dato, le do forse degli insegnamenti, dei pensieri, delle idee, delle guarda. Cose. Vabbè, io voglio poi dire una cosa. Troverà la sua strada. L'ascoltatore ha chiesto, Giovanni da Bergamo ha chiesto, ma se si sposasse con un musulmano? Con un musulmano. Spero di no, spero che sposi un ragazzo. Spero mio, di evidente. No, il tollerante Parenzo dice spero di no. Lo sapevo, Giovanni, rispondi Giovanni. Che, guarda, no, a te proprio ti ha la segatura nel cervello. Fai la seconda domanda, rispondi a questo ascoltatore. Se sposasse un nazifascista. Vabbè, questo che c'entra, dai, su, ma quello nessuno vuole. Nessuno vuole se... scusa, ma questa è una stronzata. Lo escludo nel modo più assoluto. Questa è una stupidaggine. Lo escludo nel modo più assoluto. Diciamo. Ma questa è una stronzata, dai, su. Ah, questa ma, male, no. Okay. Ma tra i nazifascisti ci sono stati anche le persone giuste. Vabbè, ma che vuol dire? Tipo, dai, su, ma non vuol dire niente questa cosa. Dai, che cazzo, lasciami. Giovanni, hai fatto. Sono sincero, era partito con una questione intelligente. Hai fatto una buona provocazione. Siccome poi ha detto una stupidaggine. No, ma non c'è discorso. C'è da chiamare una guaranza e da reparto sanitario che la trattenuta fino ad ora ci sono le persone buone tipo per vabbè d'accordo poi vai avanti poi un'altra cosa questo non rende buono il fascismo e il nazismo ovviamente. Ma oddio va bene abbiamo capito la provocazione dunque ecco quindi il fatto che ci siano degli islamici buoni bravi onesti lo si sa ci sono buoni cattivi come da noi ma questo non vuol mica dire che è buono l'islam l'islam ha il suo Mein Kampf che è il Corano. Si provi a leggere il Corano. Ecco ieri sera un'ascoltatrice ha citato un versetto. Cioè, lei molto dice chiaro. Il Corano è come il Mein Kampf. Esatto, l'unica differenza è che una religione non è una cosa politica. Cioè, secondo Giovanni da Bergamo, il Corano è come il Mein Kampf. Come il Mein Kampf. Perché scusi, Giovanni? Si provi a vedere cosa dice. No, per esempio, faccio un esempio. Delle donne. Mi faccio un esempio. Che ne so, esempio, la sura delle donne, versetto 15. Se alcune delle vostre donne, tutti. Se alcune delle vostre donne avranno commesso atti indecenti, portate quattro testimoni contro di loro, e se questi porteranno testimonianza del fatto, chiudetele in casa finché non le coglierà la morte o fin quando Dio ma apra loro una via. Ma cosa scrive la Bibbia sull'omosessualità o pederastia? Cioè la Bibbia cioè, come Corano, non ho capito. Se tu vai alla lettura della Bibbia, troverai delle cose che ovviamente tra come gli ebrei si rapportano alla Bibbia, come i cattolici si rapportano alla Bibbia e come lo fanno e gli come gli islamici si rapportano all'Islam e cioè al Corano. Sono tempi duri, non tanto per noi, ce ne frega niente. Perché voi non avete le palle. Allora, se voi non avete le palle, non prendete in giro un collega più forte di voi. Perché noi abbiamo coraggio e voi non avete coraggio. Voi solo ma questo chi lo sostiene? Noi andiamo delle persone, noi andiamo di persona a prendere dentro dei vostri uffici, nelle vostre camere da letto, nelle vostre camere, ci portiamo fuori e ci spariamo in testa. Allora, se voi non avete coraggio, non toccate un piede più forte. Ma di io voi. Ti mando a fare in culo. Ma è sai che fa questo? Spara non nella nostra, è scritto nella nostra religione. Non è ma io lo so che è così. Ma tu sei un criminale se pensi una cosa del genere. Sono religioso, siamo religiosi, allora punto. Allora siamo religiosi, quella è una vendetta, basta, senza che prendete tanti in giro. È scritto nel nostro Corano, voi ci dovete rispettare, se non rispettate pagherete, arrivederci. Ma sei impazzito, cosa richiama questo qua? Tu sei un criminale, sei. Ma cos'è questo qui? Non ammazzo nessuno, voi ammazzate, con le tue mani grondano di sangue, le anche mie tu mani. Sei colpevole di quello che fate, sì, anche tu occidentale, non vi preoccupate, ma nessuno qua ha paura di te, Crociani, né di te né di nessuno. Ma io infatti non voglio fare paura a nessuno. Hai sei tu e che non chiami. Fa paura, non fa paura, perché la vendetta dell'Islam può ti arrivare pure dopo tanto tempo e ti vedranno tutti i tuoi manifesti per le strade. Ma che pazzo, non è una minaccia, perché non sarò io a venire a uccidere. E chi invece? Continuate a prendere per culo e poi andrà a tenere. Io piglio per il culo chi voglio, anche Maometto, capito? Piglio per il culo anche Maometto, hai capito, anche Barry? Quello che vuoi. Di di che origine sei? Egiziano, tunisino? No, non mi interessa, non ma mi no. interessa, mi vuoi denunciare. Ma no, ma chi denunciare? Mi vuoi denunciare. Ma quando mai? Hai capito, no? Non ti mi voglio... vuoi denunciare quando non ho ucciso nessuno. Io se vengo loco ti spezzo solo la faccia, ma non ti uccido. Solo? Hai capito, no? Ma mi spezzo solo la faccia. Mano nuda. Ma io guardo a mano nuda, ma sono tre morti che sono appiccicato. Vado in galera perché ci ho picchiato. Voglio avere il diritto di disegnare Maometto con il culo di fuori. Perché non posso farlo? Spiegamelo. Barry? Non puoi farlo. Perché non lo posso fare? Spiegami, perché? Me lo devi dire tu? Se lo farai, ci saranno conseguenze. E per te è giusto? Cioè, secondo te è giusto? Magari i tribunali ci io sono. Io non sto dicendo niente, sto dicendo ci saranno conseguenze. Voi non avete più coraggio. Mo' parecchie redazioni non lo faranno più. Eravate tutti coraggiosi, tutte le redazioni doveva fare quello per cui sì, è vero, bisognava farlo prima, hai ragione tu, bisognava farlo prima. Si può sapere chi hai là vicino, Parenzo? Allora, aspetta, sta ridendo, dica, chi è? Cioè, ride, di fronte web. A che ha un pazzo dica, che mi ha minacciato di morte, non dica, ho capito. No, su questa cosa sono assolutamente sconvolta, ma perché li fate parlare? Beh, perché li facevo parlare? Io la sto abbracciando, c'è un microfono, immaginati la scena, sì. C'è un microfono, l'unico perché sì, l'altro non era attivo. Stavo dividendo il microfono. E stiamo vicinissimi proprio, no? Beh, ma tu non sei, come dire, sei uno fedele. Senti come sta la musica? Non tradisci nessuno. Che c'entra questo con la fedeltà? No, perché siete accanto molto senti stretti. Come rosico il cucciaio. Ma no, ma non so nemmeno chi è. Come faccio a rosicare? Adesso lo scopro. Adesso te lo diciamo perché tra un po' se ne va. Perché se no tra le scatole sta qui. No, no, purtroppo non posso restare. Questa cosa. Però tornerai, no? Tornerò. E forse magari dovremmo mantenere questa voce nascosta. Sì. Così posso tornare. No, però ditemi, vi prego, ditemi chi è. Nike Rivelli, chi è? No, te lo giuro. Signora no, Rivelli, non è. È Lucrezia Borgia. Ma Lucrezia Borgia, anzi, chi è la sarà, chi è che ha fatto Lucrezia? Sarà farà Lucrezia sarò, Borgia sarò, il 25 febbraio e vive a Londra. Ha avuto una vita, come dire, Lucrezia ricca Borgia, di cose. Fa l'avvocato. L'avvocato più facile, fa l'avvocato ed è molto inserito nel jet set internazionale. Ha avuto, diciamo, degli amanti, dei mariti molto importanti. Meno di quelli che saranno. Meno come di quelli, meno quelli che saranno. Ma numero uno questa qua chi è? Te lo so, è un regalo che ti sto facendo. Ma capito, fratello, ma è molto bella. Fratello Grugiano. Fratello Grugiani. Ma è molto bella? Il mio harem di zanzara, fratello, questo no, che abbiamo di zanzara, harem di zanzara non ti riguarda. Ho costruito zanzara. Con due, non credo, vergini. Questo no. No, questo non credo. Questo no. Sinceramente non questo credo. No. Abbiamo costruito primo grande harem di zanzara, fratello. Ma io ho ascoltato solo una voce, dice che ce ne sono due lì. Ce n'è un'altra, ma non vuole farsi, come dire, mettere in mezzo, mezzo. Ma perché sono venuti in due? Non ho capito. Cioè ti vengono a trovare qui, non viene mai un cazzo di nessuno qui a Milano, in via Monterosa, cavolo. Non viene mai un cazzo di nessuno. Adesso nelle prossime settimane riempio questa redazione di donne meravigliose, non è possibile, voglio sentire. La differenza è che lui non l'ha nemmeno chiesto, non l'ha neanche cercato. Esatto. Ma voi andate da lui perché è innocuo. Ma io ho capito perché è altamente innocuo. Giussi, come stai, caro? Chi è quest'altra? Vabbè. Chi è quest'altra? La inviteremo. Allora, la promessa che facciamo è che prima del 25 no, però, febbraio inviteremo Lucrezia Borgia qui e vabbè, così scoprirai chi è. Lucrezia Borgia no, dal 25 febbraio. No, no, sarà... perché ti ho detto che è un avvocato che la conosci molto bene, ma perché è famosa anche alle cronache rosa, famosa nel mondo del jet set, è un avvocato. Ma vive io la conosco a Londra. Io la conosco bene. No, sicuramente sai chi è. Vi siete forse visti qualche No, no, ma vi siete sei venuta anche ospite da noi un'altra volta. Esattamente, certo. Ma quando è venuta ospite? Non l'abbiamo messa in mezzo mai. No, non sono stata ospite, ecco, ma sono appunto, stata ospite della vostra trasmissione. Beh, è in collegamento. Ah, in collegamento. Come lo dice? In collegamento. Chi è? Non l'abbiamo messo. Come ti abbiamo trattato? Bene o male? Si può sempre fare di meglio. Sì, vabbè, sì, d'accordo. No, no, assolutamente bene, molto divertente, ma sai. Sì, ma sì, che si fa? La Parietti chi è? Cioè, oh, che... No, la Parietti non può essere, no. Ma perché è un insulto, non l'ho capito, che è un insulto. No, scusa, sembra scusa, che ho detto ma chissà ti abbiamo che... date delle elementi. La Parietti intanto non vive a Londra. Ma anche sì, ma infatti stavo andata, sparando senti, così. Senti, ma chiedile qualcosa, falle un'intervista, una domanda, è una no, donna di mondo. Voglio mantenere, avvocato, voglio mantenere jet set internazionale. No, scusami, allora facciamo una da cosa. Qui così. Non è che vengono bubù, quanti qui anni? Da me. Quanti anni si può dire? Ancora questa no, cosa. No, quell'età le signore non si chiede. No, esatto. Mamma mia, ancora siccome siete rimasti indietro. No, dai, ma insomma, ci sono tantissime domande che potresti fare, hai scelto quella più banale. Vabbè, d'accordo, l'età e i capelli di che colore? Beh, una donna sexy c'ha soltanto un colore. Attento che su Twitter hanno già indovinato, perché su Twitter si è scatenata la caccia, eh. Aspetta, su Twitter hanno già indovinato, perché la gente è impazzita oggi per questa cosa che ho fatto, questa gheghina. Ma no, ma sì, ma ho capito, sì, ho capito. Nancy dell'Olio, la zanzara, buonasera! Ma che sta che viene a fare lì la signora dell'Olio? Ah, ho capito, adesso non è che è famosa, adesso non esageriamo, famosa. Come non è famosa? Ma è famosa, ma che per, famosa per essere stata con Ericsson. No, no, amica allora mia, controlliamoci, cioè, che questo diventa peggio del discorso sull'Islam. Ma lo sai che hai una voce bellissima? Grazie, lo so, ma infatti dovrei fare radio, forse. Sai, hai fare una voce meravigliosa, una voce molto bella. E non solo quella, ma no, ma io ci ho pensato prima, eh. Io ci ho pensato prima in maniera ho pensato, ho detto, ma non è possibile, perché che ci fa a Roma e che ci fa perché sei rimasta in contatto con Parenzo? Questo vorrei capire, perché veramente siamo appena entrati in contatto. Chi hai chiamato per stare lì a Radio 24 a Roma? Signora Nancy dell'Olio, avvocato affermatissimo a Londra, persona molto ricca. Molto ricca. È diventata ricca anche lo signor Ericsson, gli ha mollato un sacco di quattrini. Ma che stai dicendo? Ma che c'entra tutto questo? Ma che c'entra tutto questo? Bellissima. Allora, verrai a vedermi? Farò grande Lucrezia Borgia il 25 febbraio. Grande milfona, beh, stupendo, beh, meraviglioso. Meraviglioso. Guarda la faccia che ha fatto Ali Bitt. Beh, un po' meno dell'Olio. Cioè, non è giovane, non è giovane, certamente non è giovane. È una non è giovane. Ma certo che no, sì, voi dite parolacce in radio. Credo che sia la cifra che contraddistingue questo piccolo spazio. Ma decisamente non sono maleducato, sei un po' stronzo. Eccola. Però è la mia caratteristica. Isoliamo dalla regia La signora Nancy dell'Olio è molto, ha una voce molto bella, però devo ma dire è una donna molto bella. Una donna molto bella, affascinante, conosciuta alle cronache per altre cose, devo dire la verità, però in realtà ha una sua vita. Quali altre cose? Sei tu che non sai documentato. Se uno dice Nancy dell'Olio, la prima cosa che ti viene in mente è che è stata col signor Ericsson. Ma questo per quello che riguarda, per quello che riguarda Roma in Italia. Esatto, io quello dicevo. Sven Ericsson non sanno chi è più in Inghilterra, però sanno chi è Nancy dell'Olio. È vero, hai ragione, che bella voce con questa, l'ultima paio che sanno chi è Nancy dell'Olio. Gente che applaude, altre donne che entrano. Amico mio, questo è un carosello. Certamente, la vita è un po' meglio a Roma, forse. Dici? Sì. Rispetto a cosa? Comunque, ascolta, verrai a vedermi. Mi hanno chiesto di interpretare Lucrezia Borgia il 25 febbraio a Roma. Dove? Ci sarai? Al Teatro Parioli? Ma ci sarò. Con questa voce come faccio a dirti di no? Di pazienza adesso. In questo momento non ti posso dire di no. Poi vediamo, 25, da qui al 25 febbraio. Certo, tutto può succedere. Tutto può succedere nella vita. Ti aspetto anche a Londra, va bene. Prima. Vabbè, quello però adesso, scusa, siamo in diretta. Tu perché mi devo condurre una trasmissione da qui alle ore 21? Sto cercando di questo argomento è abbastanza Parenzo, com'è inquietante. Come è vestita? Dimmi se c'è un po' di se si vede qualcosa di interessante. Cioè, io sono un signore, si vede quel che si deve vedere. Esatto. Vestita in modo molto elegante, cioè, di nero, sexy. Di solito è molto sexy. Certo, sexy è una qualità mentale. Sexy, non è dico, diciamo, non è vestita come le donne in Arabia Saudita, per rimanere appunto, nel tema, appunto, diciamo, appunto, della giornata. Il tema della giornata, sicuramente no. È vestita come piace a noi occidentali, diciamo, questo sicuro. È molto attraente. Come donna, no, è molto attraente. Certo, ma che domande fai? Vabbè, ma non lo so. Ma scusi, signora dell'Olio, lei non è che sia nata ieri, non è giovanissima, è una bella donna. Ma tu guarda, diciamo, la fotografa anche stagionata, così? Diciamola tutta. Oddio, ma perché? Ma è normale che sempre sia. Ma non è normale nulla. Ma questo ancora è talmente banale. Questo modo di ancora questi perché sono banale? Luoghi, sono, ma perché sono luoghi. Ma comuni. A me lo dice, io sono ho dichiarato che mi piacciono quelle sopra i 50 anni. Abbia pazienza. Allora non ci siamo ancora arrivati, però penso che sarai, perché donne vere, la vera bellezza viene fuori dopo. A 20 anni si dice: 20 anni hai la bellezza che ti ha dato Dio, a 50 quella che ti meriti. Beh, siamo veramente al top. Siamo con ma è giusto, cioè uno come me che è affascinato da donne sopra una certa età. Perché a te interessa la testa, la vera bellezza nasce dalla testa. Io non sarei, signora dell'Olio, così convinta di questa affermazione, cara. Sì. Fa la differenza. Ma oggi, signor Targetti, impazzito su Twitter. Oggi essere gradevoli non è molto difficile, però la vera bellezza è essere attraenti, essere sexy, è qualcosa che nasce. Arriva un suggerimento dalla rete: fatele annunciare i titoli del TG3. Sì, perché dobbiamo cambiare. Dobbiamo questa... cambiare. Sì, no, è giusto. Cambiare. Lo facciamo? È vero, facciamo. È vero. Forse allora, torno in Italia. Chi è che ha il cellulare? Scusi, cara. C'è l'altra ospite. Vogliamo dire adesso i titoli del TG3. Così. Aspetti, che c'è dell'olio, vada. C'è l'altra ospite che sta. E adesso i titoli del TG3. E adesso i titoli del TG3. Beh, molto bello, anche molto in inglese bello. Se vuole, anche in inglese, certo. È bellissimo, che è internazionale, vai. Vogliamo dire in inglese? Sì, in inglese, prego. Osa l'inglese. And now we go with the headlines for Channel 3. faglielo ridire, ma interrompi l'emozione. È la radio, interrompi. Prego, la ridica, mi scusi, cara. Uno, due, tre, azione. And now the headlines, news channel 3. Beh, questa è molto più bella, questa qua in inglese. Siamo al top. Questa in inglese è molto molto più bella. Chi c'è, collega? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Aspetta. Però... Adesso la lascio un attimo. Buonasera, sono Sven e volevo dire a Nancy che non sono stato dimenticato a Londra, non è vero. E comunque Sven non parla così, riconoscerebbe nella sua voce, molto bene. Per forza, ma sei rimasta insieme a me 10 anni, beh, vuol sei dire che non ero così male. E se ricordi Nancy, in Svezia mi chiamavano il mandrillo dei Göteborg, e a Roma mi chiamavano il re dei fori imperiali, e a Lisbona dicevano che sono il castigador de Benfica, quindi dovresti sapere. No, complimenti, carino questo. Beh, certo, è che cerca di non ricordare tutto questo. Io invece ricordo molto bene. Ci si può lasciare meglio, però, voi si bisogna lasciare di male. Che cavolo. No. Vabbè, non rimanghiamo queste cose, chi se ne frega. È una storia, sono partenza di cose, ci sono tantissime altre cose cui parlare. Esatto, brava. Allora, però intanto, io ti abbraccio, ti bacio e ci vediamo presto. Ci vediamo presto. Io anche accompagno le signore. Ma perché io non sono a Roma? Perché non sono a Roma oggi? Io vado con le signore, ci vediamo. Perché non sono a Roma oggi? Fai pure senza di me oggi. Oggi è successo pure una cosa grave a Parigi. Noi stiamo parlando con Nancy Dell'Olio. Ma io sono qui anche per questo. Molto meglio, molto meglio. Viva la libertà, abbasso l'Islam. Dillo. Bene, no, viva la libertà, non abbasso l'Islam. Ma sicuramente quello che sta succedendo sono cose gravissime. Le analisi. E io l'unica. Semplicemente abbiamo analisi. Concesso troppo spazio. Ah, bene, essere invasi a casa nostra. Ah, c'è stata un'invasione. Cioè, l'invasione. Sì, sì, sì. Anche Londra, Inghilterra si sta ponendo. Io parlo di casa, assolutamente sì. Ma forse perché noi naturalmente l'Isa non ha avuto, non sono degli illuminati, e noi paghiamo le conseguenze di essere un paese, di essere un mondo occidentale, cioè siamo illuminato. Superiori come civiltà. Beh, questo senza ombra di dubbio, ça va sans dire, si dice ça va sans dire. E con questo vi lascio un bacio fortissimo e buon proseguimento. Ciao, un bacio ciao, a tutti, ciao vado anch'io, arrivederci, ciao. Ma... Mirko, provincia di Forlì. Buonasera Cruzani, buonasera Parenzo. Vai. Io volevo parlare in merito a quello che ha detto quel politologo che hai citato all'inizio, non ricordo adesso il nome. Chi? Pasquino. Sì, ha perfettamente ragione. Cioè? È vero, sono inferiori e gli rode. E guarda, te lo dice uno che ha molti amici islamici. Cioè non sono contro gli islamici, ma la loro cultura è inferiore, è una cosa palese. Cioè io voglio sapere che ne pensa Parenzo di questo. Parenzo non credo che dica che hanno una cultura inferiore alla nostra. Ma come fa? Parenzo non è scappato dirlo. Con Nancy Dell'Olio. No, io penso che Nancy, no. Io penso che bella sorpresa ti ho fatto, però. Di la verità. Sì, buono? Sì, molto bella. Molto bella. Dai, forza. Ti giuro che non la riconoscevo all'inizio. Dai, andiamo avanti, su, sennò ci blocchiamo. No, qui. Ma no, io non parlo di società. La democrazia indubbiamente è il miglior sistema che esista, in attesa di altri, e finora è il migliore. In questo c'è una supremazia assoluta, ma in quanto democrazia e tutto il resto che ne viene, ovviamente. E questa è la superiorità. Se per superiorità si intendono i diritti dei lavoratori, sì, ecco, tutti diranno che palle, i diritti dei lavoratori, i tribunali che funzionano, lo Stato di diritto, questo è sicuramente civiltà superiore, su questo non c'è dubbio. Vabbè, allora Mirko, non ho capito. No, appunto, cioè, come si fa a non dire che loro non hanno una civiltà inferiore alla nostra? Cioè, hanno matrimoni combinati ancora adesso, le donne che sono trattate come sono trattate, ma la colpa comunque di tutto quello che succede è anche nostra, perché fondamentalmente anche dello Stato, perché noi li facciamo entrare. Ma l'altra che accompagnava Nancy Dell'Olio non era Claudia Gerini per caso? No, non era la signora Gerini, no. Sì o no? Ci sarà sorpresa, c'è tempo. Luigi c'è tempo. Da Milano, dai, Luigi da Milano. Grandi frequentazioni di Parenzo, amico mio, tu pensavi che... Luigi, dai. Buonasera, una cosa molto semplice. Il dottore fotografo Toscani avrà la mia più grande simpatia il giorno che, anziché mettere un prete che bacia una suora, farà una foto con un imam che bacia una col burka. In che senso, scusi? Cioè dovrebbe fotografare che cosa? E come ha fotografato il prete che baciava la suora, fare più o meno la stessa cosa con diciamo il mondo islamico, ecco, con... Ma guardi che lui lo, secondo me lo fa tranquillamente senza problemi, eh. Magari. Anche Charlie Hebdo hanno pubblicato una vignetta bellissima, tra l'altro, in cui c'è un musulmano che bacia, che bacia, sì, un, sì, sono bellissime. Il giorno in cui il dottor Toscani lo farà, cambierò. Ma io credo che abbia preso in giro, ecco, l'Islam anche lui più volte, eh. Sì. No, lui fece una volta una maglietta molto bella, peraltro, con un, sì, una volta in altri contesti, con un rabbino che mangiava, adesso, che baciava una, un, ma certo, ma è facile con l'Islam, è facile con gli ebrei. No, ma non c'è dubbio, no, fatto anche non c'è con la kefia, uno quindi deve avere il sacrosanto diritto. Ma è diverso questo sempre da rappresentare il profeta, però, ragazzi, no, cioè, ragazzi, come si fa? Non è sberleffare la religione, si chiama satira. Punto. Esatto, ma uno deve avere il sacrosanto di diritto di ritrarre il signor Maometto, il profeta o quello come diavolo si chiama. Certo. Bisogna che uno abbia il sacrosanto senza per questo rischiare la morte. Certo. Uno deve avere il diritto di ritrarre il signor Maometto, il signor profeta, quello io che sto con il culo con di fuori. No, io sto con Francesco Merlo. Ma chi se che ne frega oggi di Francesco su Repubblica Merlo, ha scritto dai, la su libertà degli altri. Ma no, dai, su un corno. Ma che vuol perché dire? La laicità e la secolarizzazione, come ha scritto lui, comportano anche un governo delle invocazioni. Cioè tu un governo non dire, è scusa, che puoi fare, ma parla qualunque. Come mangia, di che stai parlando? Te lo leggo, ti leggo il pezzo, è troppo, è troppo complicato. No, ma dimmi, il governo di che cosa? Non ho capito. Di un pensiero tuo, non scopiazzare quello degli altri. Non scopiazzo, ti ho letto quello che lui giustamente ha scritto, cioè sul concetto della libertà degli altri. È chiaro che oggi siamo tutti con Charlie, ma esiste Charlie, ma esiste un principio che è quello qual che è? Comunque nello stato di diritto, se uno si sente offeso, ma va da sé, è scontato, se uno offeso ci sono i tribunali. Uno di tribunali, uno di per diffamazione e basta. Ma che vuol dire questo? Questa che è la tu hai affermato questione. Che ti fa perché schifo? I signori che difendevano fino ad oggi questa grande rivista satirica francese veniva presa di mira anche dai ben pensanti italiani. Italiani no, perché se ne potevano gli italiani. Anche italiani, perché i Santanché, i Cicchitto, la destra. Che c'entra? Tutta una parte del centrodestra, quando si faceva ironia sul Papa, ad esempio, hanno alzato le barricate. Quando la Letizietto faceva le battute sulla Chiesa, i Santanché, le Santanché. Adesso ti ho una sorpresina per te. Aspetta. Questi qui bacchettavano la Letizietto, altro che Charlie. Oh. Daniela Santanché, Parenzo ha detto delle cose su di lei, ha ascoltato? Sì, non ma io non riesco fosse. Mai a sentire la voce di Parenzo perché non riesce ad arrivare alle mie orecchie, io cammino sui tacchi alti, quindi non riesco ad abbassarmi così tanto. Quando il ascolto. Sole della cultura è basso, anche i nani hanno l'aspetto dei giganti. Ma io vedi, sai cosa invece cosa mi ha insegnato mia nonna? Che lo sguardo va sempre rivolto verso l'alto, perché cadere in basso un attimo, lei è già caduto, io cerco di stare in alto. No, io rimango sempre alla stessa altezza e la visuale rimane sempre la stessa, vedo solo polvere, cara. Solo polvere vedo, cara. Allora, buonasera innanzitutto, buonasera. Bene, buonasera a voi. Io voglio molto bene la signora Santanché, però battagliamo ogni tanto. Meno bene di quanto gliene vuole Sallusti, evidentemente. Ma quello sicuro, quello anch'io. Quello. Madonna, c'è il complesso di Sallusti, perché mi sembra come gli anti-Berlusconi, che parlano solo di Berlusconi. Parenzo al tormento sempre di Sallusti. Di Sallusti. Sempre. Ogni volta mi tira in ballo Sallusti. A me è troppo simpatico Sallusti. Ma invitatelo, parli con lui. Ma sì, l'ho invitato, fa un'imitazione fantastica di Sallusti, Parenzo, anche, devo dire la verità. Ah, sì? Fa una bellissima imitazione. Sentiamo un po', il titolo di domani quale sarà, dopo Macelleria Islamica, Parenzo? Morti quattro bastardi di merda, titolo sobrio che abbiamo fatto oggi. Quattro bastardi di merda islamici morti, affanculo, catenaccio abbiamo messo. Piccolo titolo sobrio. Affanculo, catenaccio. Allora, adesso, al di là di Sallusti, voglio chiedere una cosa, ma è vero che lei vuole pubblicare in Italia no, Charlie vuole Hebdo? Comprare la testata. O comprare la testata? No, comprare niente. Io mi sto adoperando da lei stamattina. Lei compra un sacco di roba? No, mi sto adoperando da stamattina perché mi piacerebbe molto poter editare e essere licenziatario di Charlie, perché non è giusto che ci tappino la bocca, non è giusto quello che è successo, e quindi vorrei che l'attentato non non ci bloccasse, ma facesse moltiplicare questo settimanale e che uscisse dai confini francesi. Io credo che questi sono fatti e non parole. È da stamattina che siamo in contatto e che mi auguro di riuscire e di poterlo fare, perché sarebbe veramente una grande vittoria nei confronti di coloro che ci vogliono sottomettere, che ci vogliono tappare la bocca. Ho capito, cioè, scusa, quello che è successo l'altro giorno, ma si può anche, si è può peggio anche... dell'11 settembre, perché le opinioni, la libertà delle proprie idee non si può uccidere. Io combatterò sempre, anche perché venga divulgata un'idea che è opposta dalla mia, ma non voglio ucciderla. Peccato che voleva censurare la Letizietto, ma insomma questo no, guardi, lei parla proprio con una che censurare la Letizietto mai, si arrabbiò e quando la Cortellesi mi ha fatto l'imitazione l'ho pure mandato un mazzo di fiori. Quella della Cortellesi era divertente, mi scusi, però quando la Letizietto fece battute sulla Chiesa, ha alzato un dito pesanti, come si meritava, lei uno fatto se un ne dito può dire di tutti i colori, perché giustamente si è sentita offesa. Ma lei sta parlando di gente che ammazza, ma è ovvio che c'è una differenza, la gente ammazza, io non ammazzo nessuno, ma chi lo dice? Ma lei vuole ovvio fare una differenza, ha ma certo, fate le magliette io con quello, con Cruciani sta dicendo un'altra cosa, sta dicendo un'altra cosa, Parenzo, ma come si permette? No. Ma, cosa ma io ho fatto le magliette con quelle vignette anche se mi fanno schifo, ammazza le opinioni, no, ammazza sì, le ma io d'accordo, persone, ma nessuno ammazza la i giornalisti, però scusi onorevole Santa, che nessuno l'ha paragonata agli assassini, quello non è questo il punto, il punto è Parenzo dice anche lei con la Letizietto, l'ho mandata a fanculo, che... e so che è diverso mandare a fanculo, ho detto che quelli che oggi alzano il ditino dicendo libertà di stampa sempre sono gli stessi che con altri mezzi, ovviamente civili, il dito medio, chiusure di trasmissioni e quant'altro, attaccavano come ma si chiama quello di Satirico, guardi, Luttazzi, lei quando è scherzo... uno di quelli che non ha le palle abbastanza, perché ha palle non di gliele velluto, posso far vedere, ma lei non le ha, glielo dico io. Beh, perché lei sarebbe uno di quelli che non riesce a denunciare con forza questi terroristi islamici, perché dice? La verità, come dicevo Oriana Fallaci, non sta nel mezzo, sta da una parte, a sta dalla nostra parte. Però scusi, io spiega il problema, il pericolo del terrorismo, il problema islamico, no, a me ebreo spiega il pericolo del terrorismo islamico, no, però ci sono, no, però ci sono due aspetti qui, il problema è non è la condanna del terrorismo, poi adesso ne parleremo anche, però scusi, lei pubblicherà anche questa vignetta che ho davanti, che giustamente un nostro radioascoltatore mi manda, questa vignetta dove c'è questa trinità che sostanzialmente fa una specie di trenino, lei, la Daniela Santanchè pubblica, a me non piace un mondo così, a me il trenino non piace con la rappresentazione Gesù, di Dio, la Madonna, non mi piace tutto. Io guardi, se fossi cattolico lo riterrei blasfemo. Il settimanale prima di Natale ha fatto delle vignette sulla Madonna che erano pazzesche, ma nessun cattolico è andato lì con il calcio, ma questo non c'è dubbio, però Sandir come no, però c'è una, c'è una, su queste cose non sono disposto a scherzare, no, però infatti non c'è da scherzare, non stiamo scherzando, però c'è una cosa fondamentale, no, c'è una cosa fondamentale, però lei nel passato nel recentissimo passato ha criticato diverse persone, non solo la Letizietto, anche Vauro per una vignetta sull'Aquila e sui cimiteri, e mi sembra anche dicendo che non è satira, che non ma senza, ho capito, ma quelle erano criticare un conto uccidere, vabbè, ma quello non c'è dubbio che ma nessuno ma viene... che paragone del cavolo è critico, no, certamente, perché siccome lei dice libera satira, di satira sempre libera, siccome lei dice adesso satira sempre libera, bisogna non fermare la satira eccetera, d'accordo, benissimo, nel passato ha criticato più volte ma cosa me ne frega, criticato, parliamo di ammazzare, vabbè, ma quello nessuno dice a usare il linguaggio che è una convenzione che deve essere chiaro a tutti, allora non paragoniamo e non paragonatevi, prego, chi critica chi ammazza, ma non sto paragonando, io sto dicendo che siccome io ho criticato, che cosa vuole dire? No, voglio dire lei ritiene che ci possano essere delle vignette, io contraria vivo in un paese ancora, ma no, ma certo, ma nessuno sta dicendo che lei non può criticare, allora, sto dicendo che però affermare oggi viva Charlie Hebdo, la critica, la satira sempre, ma è diventato eccetera, il simbolo della libertà, scusa Paolo, ma voi sapete perché cosa sono e ci i volevano simboli? I morti per sapere questo, no, certo. Certo, certo, è diventato un simbolo, perché una come me che dice voglio che anche in Italia, se potessi, e sto facendo di tutto per poterlo fare, perché siccome Charlie Hebdo lei definì Bauro un serbo, lei definì della libertà, è la visione moderna della libertà, egalité, Sant'Anché, guarda un po', di poterla divulgare. Ma d'accordo, quello va benissimo, lei però definì egalité e Sant'Anché, un po' tutto tanto anch'io, libertà, egalité, Sant'Anché stasera, bisogna dire, guarda no, un po', però guarda che cretino che è, madonna. Lei definì egalité, questa è buona Sant'Anché. Però questa non è male, perché, però sì, perché l'illuminismo non è male, libertà, egalité, Sant'Anché non è male, mi è venuta così come battuta, pagano abbastanza che voi scherzate su una roba che no, c'è, no, io non scherzo, è l'illuminismo e la libertà alla carte, questa qui è la libertà, lei è libertaria alla carte. Dai, ma Parenzo, Topolino, Parenzo, siamo seri. Guarda che non vorrei ingoiarla di un sol buffone. Allora, riprendiamo con Daniela Sant'Anché, Forza Italia, dopo la giornata di oggi. Avete ascoltato tutte le notizie? Parenzo, voglio far ascoltare quello che disse, poi passiamo ad altro, la Sant'Anché quando criticò Bauro, siccome la notizia di oggi, una delle notizie di oggi, che Daniela Sant'Anché dice che vuole editare, diciamo editare ma non è editare, insomma portare, vendere molte copie di Charlie Hebdo in Italia. Ma quello già si trova, per farlo sopravvivere, uno lo trova e lei vuole diventare licenziataria, così si dice in termine tecnico, ma comunque voglio diventare l'editore italiano, il punto di riferimento italiano di Charlie Hebdo. Per farlo sopravvivere, questa qua è una buona cosa. Vediamo se l'operazione riuscirà. Nel passato, però, l'abbiamo detto prima, nei confronti di alcuni protagonisti della satira italiana, non tutti, la Sant'Anché si era espressa in maniera molto dura. Per esempio, signora, libertà, egalité, Sant'Anché, così si esprimeva. Però all'epoca, aspetta, c'era una vignetta di Bauro che era aumento delle cubature in occasione della. Allora, poi dobbiamo fare una differenza. Non è che vogliamo dire che lei. Una cosa è l'assassinio, i pazzi, una cosa è la critica, ma questo è evidente, non c'è manco bisogno di dirlo. Aumento delle cubature, terremoto dell'Aquila, c'è un tizio che ha una pala in mano con le macerie dietro, dei cimiteri, dice questo tizio, con tutte le bare per terra. Era una critica ovviamente a quello che stava avvenendo sui morti in Abruzzo, probabilmente al governo Berlusconi, eccetera eccetera. In questo modo parlò la Sant'Anché. E io vorrei chiedere a Bauro se a lei avrebbe fatto sorridere vedere la vignetta che lei ha fatto se avesse avuto un figlio morto sotto quelle macerie. Allora. Ancora sulla satira, Sant'Anché? Sui potenti? Lei sa bene che io difendo la satira perché trovo una cosa giusta quando è contro i potenti e quando contro il costume a 360 gradi. Ho difficoltà a essere vicina a lei, che la considero un servo di una parte di un potere, un giullare, perché lei mi risulta sia iscritto anche a un partito politico, e mi vergogno che domani sera gli italiani possano rivedere la sua faccia e quello che lei rappresenta. Vabbè, abbiamo capito che Bauro non è un vignettista come gli altri. Scusi Cruciani, ma non riesco a capire una cosa. Benissimo, io ci metto sempre la faccia, ho il coraggio di dire quello che penso, che non è proprio di tutti, ma non riesco a capire cosa c'entra rispetto a quello che stiamo parlando di gente che è entrata in una un'altra cosa, adesso ne parliamo. Giornale, non c'entra niente. Ha sparato e ammazzato 12 persone con le critiche alla satira. Però scusi, noi stiamo parlando di lei che vuole editare Charlie Hebdo. Questo però non avete capito che diventato un simbolo Charlie Hebdo. No, però nel passato, ma certo che, ma lo so, c'ho una maglietta, ho una maglietta addosso con una delle vignette pubblicate su Maometto. Dovrebbe dalla mia parte, dovrebbe dire brava. Ma io infatti ho detto brava che vuole editare Charlie Hebdo. Ma ho criticato la satira. Ma io non è che le fotte che ho criticato la satira. È una di quelle. Non brava, mica ammazzato. Libertà, no, ma mica ha detto che è ammazzato, perché lei ha un'idea della libertà che è un po' particolare. Cioè, lei diciamo, nel passato la satira, un certo tipo di satira, le ha dato fastidio, la disgustava, addirittura qualche trasmissione è stata chiusa, non direttamente da lei. Ma quello non c'entra niente con la satira. Con la satira non c'entra niente. Guarda, scusami, Luttazzi è stato chiuso per altre cose, non perché faceva satira, perché faceva delle, perché sbagliando, delle faceva battute delle... sconvenienti nei confronti del Vaticano. No, è stato chiuso per motivi politici. Ma cosa ci azzecca? Non c'entra nulla con quella satira. Stiamo parlando di terrorismo islamico. Adesso di ne parliamo. Persone che in nome di Allah hanno ucciso 12 persone. D'accordo, però c'è un'altra notizia c'entra? Oggi. Che lei vuole pubblicare questa rivista in Italia, ok? Certo. Nel passato, nei confronti di alcune persone che erano dello stesso livello, perché non mi dirà che la satira è spietata, erano spietati quelli di Charlie Hebdo, è spietato anche Vauro. Nei confronti delle stesse persone, lei si comportò in maniera diversa. Ma non vorrei che Vauro morisse, non ma vorrei questo, che ma Vauro questo, ma certo, ma, io voglio, ma figuriamoci, poter criticare Vauro e ma dire certo. Che per me è una testa di rapanello, che non mi piace, che ma un servo di una parte del potere. Vabbè, ma lei dovrebbe pensarla come me. E allora fa brutta figura se continua a fare questi paragoni, ma no, perché ma, non c'entrano. Ma io non sto facendo nessun paragone, figuriamoci se la voglio accostare a un assassino, ma a un islamico so. Che uccide quelli di Charlie Hebdo. Sto dicendo che adesso tutti, compresa lei, stiamo gridando alla libertà di stampa, alla libertà di satira, eccetera, eccetera. Nel passato ci furono persone, lei in piccola parte, altri, ma come dire. Ma in cosa? Ma in cosa? Ma nella critica di alcuni che facevano satira, ma dicendo che quella. La democrazia è proprio quella libertà. Vabbè. Che certo, ti permette di criticare. Ma figuriamoci. Figuriamoci. Di criticare, perché senta, ti dico Parenzo. Vabbè, passiamo oltre, dai. Passiamo oltre, passiamo oltre, infatti, che facciamo però, più bella figura. Parenzo, no, chiudiamo su questa cosa. Parenzo, infatti, oltre. Si, Parenzo, infatti, si è permesso, Parenzo, no, infatti, si è permesso in giornate come queste, comunque, di dire che alcune di quelle vignette che non riguardavano la mia fede, il mio credo, erano, le considererei, come dire, volgari. Ma questo è sbagliato, è sbagliato. Io, ad esempio, a differenza della Sant'Anché, alcune di quelle vignette le considero veramente offensive. Sì, lei, scusi, uno di quelli, come purtroppo in Italia non è da solo, in buona compagnia, voglio dire che, no, io... sa, come quando violentavano una donna, che poi uno no, diceva, madonna, però propri. Aveva la minigonna, non e lei dice, li hanno ammazzati, e però se la sono andate a cercare. No, continuate no, no, mai de- no, io no, mai, non la querelo perché non ho mai sostenuto nulla, non la querelo perché non querelano nessuno, le minaccio ma non le ho mai fatte poi, ma non ho mai sostenuto una bestialità simile e le dico molto seriamente, le dico molto seriamente che alla vigilia dello Shabbat, della festa ebraica, in cui sono morti 4 ostaggi, lasci stare se ebrei o non, che erano stati presi dentro un supermercato kosher a Parigi da un pazzo fondamentalista islamico, a me questa cosa certamente non me la può dire, quindi i terroristi islamici non li ho mai difesi. Altra cosa è il buon gusto. No, altra certo. No, io ho detto che hanno detto sì, la pensa come Financial Times. No, io ho detto come il Financial Times, che benissimo, io avanzano. Avanzano cosa? No, ma ha ragione su questo la Santa Casa. Ha ragione su questo. Tu pensi che questi qua di Charlie Hebdo hanno esagerato? Tu pensi, Parenzo, che questi qua di Charlie Hebdo hanno esagerato? Tu lo dici? L'idea l'hai anche detto? Hanno esagerato o sbaglio? Sì, l'ha detto 2 secondi fa. No, hanno esagerato? No. Dico che capisco anche le ragioni del Financial. Dico che nella mia sensibilità alcune di quelle Financial Times. No, alcune di quelle vignette sono oggettive. Sono oggettivamente qualcuno le può considerare offensive e io non sono né cattolico né tantomeno islamico. Ma stiamo scherzando? No, non sono offensive, benissimo. Ma stiamo scherzando? Libertà, Galitia e Sant'Anche dice non sono offensive. Ma non giustifica niente dire che non sono. Si può dire che alcune sono offensive? Che il trenino dire. Della Trinità è non offensivo? Beh, quello sì. Si può dire o no? Non si può dire. Libertà, Galitia e Sant'Anche oggi salta fuori e dice che si può rappresentare il trenino della Trinità. Un deputato che mi diceva, ma come si permette di parlare del Corano? E lei ha avuto questo atteggiamento del Financial che lei ha lo stesso atteggiamento del Financial Times, è come se noi retrocedessimo e loro sono subdoli e sono bravissimi ad avanzare, perché noi abbiamo rinunciato al nostro orgoglio dell'appartenenza. Beh, addirittura, alle nostre, certo, perché quando nelle scuole io mi faccio il problema santa, via, che partiamo. Se faccio il presepe guerra e santa. Poi ma non succede mai, sì, succede è una in guerra alcuni... di religione, è una guerra di religione, come una guerra di religione, è una guerra di Sant'Anche, religione, giustamente, assolutamente, è una guerra. Ma secondo lei abbiamo una civiltà guerra superiore noi? Buono, noi abbiamo una civiltà superiore? Noi siamo siamo superiori, sì, perché per la democrazia, qua ci teniamo, certo, alla morte la vita. Loro hanno la cultura della morte e del martirio, noi invece vogliamo che vinca. Ma tutto l'Islam è così? Tutto l'Islam noi è così. Siamo superiori, perché voglio dire, in un paese si guarda il suo livello di civiltà a seconda della dignità che vengono riservate alle donne. Siamo superiori perché da noi non si arrestano le donne che vanno, che guidano. Siamo superiori perché si fa con una società, d'accordo, ma che perché tradiscono, che si fa con una, quando l'Islam non accetta la parità, l'uguaglianza tra uomo e donne, e dunque a vivere le donne segregate. Sì, lei prenda lezioni, perché ho scritto due libri sulle donne musulmane. Lei prenda lezioni e si ricordi che questa guerra finirà quando si metteranno a lottare le donne, perché solo noi possiamo vincere. Scusi, di fronte a uno stato, di fronte a società inferiori, che bisogna fare la guerra? Non col tacco a spillo dalle trasmissioni televisive. Le donne nell'Islam muoiono, altro che Sant'Anché col tacco a spillo nelle trasmissioni televisive. Lei dice le donne islamiche sono morte per lottare per la loro libertà. Che altro c'entra? Che, dai, su, e basta quindi? Adesso. E quindi non ho capito, lei non ha il coraggio di parlare, non ho capito, perché porta a parlare, perché porta il tacco. Il giorno del Ramadan mi hanno rotto due costole quel signore che 15 giorni dopo si è fatto saltare in aria la caserma Perucchetti, mi hanno condannato. Voglio dire che le donne nell'Islam stanno oggi e vanno sostenute, perché stanno lottando per la loro, non ho capito, non può portare la loro. Lei che adesso arriva la Santa che dice ma le donne perché non lottano, cara amica mia? Le donne lottano come nell'Islam e muoiono per i loro diritti, che stanno lottando. E se c'è in alcuni paesi dove è nato lo Stato Islamico che stanno facendo una grande resistenza, sono proprio le donne. Allora, Parenzo, senza fare altro casino, fammi fare due o tre domande veloci all'onorevole Sant'Anché, perché hai veramente dato tutto oggi, quello che si poteva dare, tutto, tutto. Allora, cioè, non va bene, non ho capito. No, va benissimo, come no, va benissimo. Va bene. Figuriamoci, ma lei è a favore della pena di morte in alcuni casi per questi terroristi, signora Sant'Anché? No, guardi, io sono per la cultura della vita, per cui onestamente non posso è per la pena di morte. Alla pena di morte, penserei a delle pene esemplari, rigidissime, ma non posso pensare, perché come ho detto prima, noi siamo una civiltà superiore perché contrapponiamo alla morte alla vita. Ma il Corano, e che quindi... cos'è secondo lei? Cosa paragonerebbe il Corano? Ma no, il Corano, io dico che l'Islam, che fa riferimento al Corano, che è il loro testo sacro, basta leggere le sure del Corano per capire. Le sure, però, non sono sure sono. Sure. Ma le sure sono quelle delle sure di Maria. Sure Maria. Vabbè, capisco che voi siete così sulla pronuncia. Ma si dicono sure, ma io credo che. Prendo lezione, va bene, se sì. No, versetti del Corano, così capiscono tutti. Nei versetti del Corano. Nei versetti del Corano è ben chiaro che la loro finalità è il fatto che noi siamo impuri e infedeli. E dobbiamo essere eliminati. Abbiamo due possibilità, no? Sì. O ci convertiamo o dobbiamo essere eliminati. E appunto, ma secondo lei il Corano a che cosa può essere paragonato? Che ne so, a Mein Kampf, a cose di questo tipo? No, io dico semplicemente. È un libretto fondamentalista. Moderato. È un libretto fondamentalista. Io dico, è il Corano, per chi lo pratica e per chi proprio, voglio dire, si attiene, è quella roba lì. E dunque? Non è che un'altra cosa. E quindi è un libro di morte, un libro di morte. Questo, che questo Islam moderato, se c'è, questo Islam moderato, e secondo lei non c'è? Aspettando, no, io sono una persona pronta a ricredersi. Però non c'è, secondo lei. Deve combattere in prima linea, deve denunciare. Ho capito, ma lei deve vincere in prima linea. E Maometto per lei chi è? Maometto? Senza ma. Maometto chi è per lei? Ma io non è che voglio giudicare che Maometto. Che ne so, Maometto, signor Maometto. Ma io non lo so, non mi interessa chi era Maometto, non mi interessa chi per è Maometto. Per me già uno che aveva tutte quelle mogli è un eroe assoluto. I terroristi aveva molte mogli, mi interessa che oggi pazzesco, i giornali censurano e l'Unione Europea ha detto che non si può mettere islamico vicino a terrorismo. Ma questa non, lo non, questo lo non sapete? Credo. Questo, sì, non questo lei creda. No, è vietato scriverlo. Questo è esattamente così. Ma queste sono ridicolaggi. No. Senta, no, che no, ne pensa invece del signor Toscani che ha detto che delle cose tremende su Sallusti l'altro giorno? Chiamava anche Sallustri. Signor Toscani che dice che il cristianesimo ha fatto più morti, i cattolici più morti dei musulmani. Ma cosa signor vuole che Oliviero dica? Toscani. Si è fatto il prezzo da solo, visto quel dibattito televisivo, e si è fatto il suo prezzo. Ma in che senso il suo prezzo? Si è fatto il suo prezzo. cioè... era solo da ascoltare. Ha detto anche che Salusi assomigliava ad un ariano, era come un nazista che assomigliava ad un ariano. Cosa vuole ribattere? Perché parlava di stupidità. E io voglio dire che loro sono contenti che i loro figli non saranno più degli uomini liberi, che sono contenti di rinunciare in nome di un multiculturalismo a fare dei passi indietro, non fare i presepi, non cantare le canzoni. Ma non succede mai, ma succede in poche scuole in Italia questa roba qua. Qua a Milano, a Paderno, qua, pure io sono a Milano, sì. Hanno fatto una piscina un giorno alla settimana, ma hanno fatto male, per le donne musulmane, perché non possono fare i bagni le bambine con i bambini. Parenzo è d'accordo, Parenzo, no, per me è sbagliatissimo. No, è sbagliatissimo, è sbagliatissimo. Per me chi toglie diritti questa roba? A chi toglie diritti questa cosa? Cosa c'entra col terrorismo? A chi toglie diritti questa roba? Ma cosa c'entra? È tutto tenuto insieme, perché se noi continuiamo a rinunciare ed accedere su tutti quelli che quella che è la nostra cultura, che le sono le nostre tradizioni. Guardi che le società moderne sono società complesse, il multiculturalismo, una parola che voglio lo stato di diritto è un'altra cioè, roba. Le società multiculturali fanno schifo. A me assolutamente sì, e vorrei che si cominciasse a parlare di migrazione compatibile. Le società multiraziali fanno schifo. Non ci possono essere, non ci possono essere, perché lo vedete che quelli che gli islamici che razza sono? Che razza sono gli islamici? Scusi, quando un testimone di Geova va, lei sa quelle 12, allora, però non spostiamo sento la questione. Santa Chiesa. Lei sa che i testimoni di Geova non accettano trasfusioni di sangue, no? Lo sai. Vabbè, che c'entra adesso? Aspetta, Parenzo, ogni tanto fai dei paragoni assurdi, che vuol dire questo? Scusa, no, mica vanno a ammazzare la gente i testimoni di Geova. No, appunto, tutt'altro, sto parlando sulla questione di dove arrivano le leggi. Vabbè, dove non si è la fermano cultura, testimoni per di Geova, riconoscere cos'è? È un'identità religiosa, no? Ma sì, ho capito. Ma c'entra, fanno delle scelte, non lo fanno, ma e non scelgono altre di non farlo. Beh, chi ci mancherebbe altro, sono, infatti sono vabbè, allora è evidente, e no? Quindi cosa vuol dire? Allora, si possono obbligare i testimoni di Geova per salvare la vita, per salvarsi la vita a fare le trasfusioni di sangue? È contro la loro, è contro la loro religione. La libertà degli altri. A me e non c'è dubbio, ma la piscina, piscina a chi toglie libertà e diritti? La piscina un'ora se queste non vogliono mostrarsi con lei e con Sallusti in piscina. Ma scusi signora, ma ha ragione lei, ha ragione la scusi Santanché, brutalizziamo il ragionamento. Se una donna islamica non vuole fare il bagno con Sallusti, ha il diritto di non fare il bagno con Sallusti, o sbaglio? Io però il suo diritto. Ha ragione. I diritti. Facessero una piscina privata, facessero una piscina privata. Spesso se la pagano non in convenzione. Non pago io il suo diritto, perché abbiamo i pensionati che non arrivano alla fine vabbè, quello mese. Che c'entra adesso. Non hanno il problema della piscina. Vabbè, e io quello non voglio da cittadina. Io neanche voglio fare il bagno con Sallustini in una piscina. Vabbè, quello ma che c'entra. Fa, ma, che ma lei guarda che stasera veramente Parenzo, guarda che sta facendo una figura che bisognerebbe affiancarla a una parolaccia. Qui ho fatto di una battuta. Che si deve riprendere. Cara Liberté Galité Santanché, ho fatto solo qui una battuta iperbolica, si dice in gergo. Rimane il principio. Scusi, ma lei è minacciata la signora Santanché in queste ore? In questi mesi, in questi anni? Andate a vedere sul mio Twitter cosa stanno scrivendo. Che stanno scrivendo? Andate a vedere che vignette che fanno e cosa scrivono. Andate a leggere. Vedi da vedere, andate a cercare. No, ma i musulmani la minacciano ancora? Una volta la minacciavano. Ma lei sa quante fatue io ho avuto? E l'ultima non tanto, certamente. Addirittura, ma certamente. Ah, per il suo famoso scontro ma là quando andò a Milano, sì, mi ricordo. Ma certamente, in diretta su Sky, sì, se sì. Non se lo ricordo. Lo ricordo, ha fatto chi era quello là? Piccardo, chi era? Mitico no, Piccardo. No, era... no, no, chi no, era Ali Abu Shuaim. Abu Shuaim, esatto. Mitico Abu Shuaim dell'altro giorno. Una personcina per bene, una personcina. Ma dice per che bene. Non esiste, dice che non è una guerra, non è un attentato islamico quello dell'altro giorno a Parigi, ha detto che non è un attentato sì, religioso. Sì, no, ha detto che non è niente, erano passavano di lì per caso, non c'entra. Ha detto che con ma non c'entra. È un po' come Parenzo. Ha detto che non. No, Parenzo non la pensa così. Ha mai detto una roba. Ma figuriamoci se Parenzo pensa che non è un attentato islamico. Wow, pensa come il Financial Times, perché fa chic. No. Lui è della gauche. No, il Financial Times dice che è una dice provocazione pubblicare certe io vignette. Non è una provocazione. Che sia una provocazione. Le giudico offensive. Poi ha corretto posso, la cosa. Posso semplicemente giudicarle ancora oggi offensive per qualcuno. Lei è cattolica, se lei non lo giudica non offensivo il trenino della Trinità non lo insomma può fare perché ci sono 12 morti. Pubblichi il trenino, lei pubblicherebbe una delle vignette in cui c'è la Trinità che fa no, il trenino? No, lo deve pubblicare, no, dove? Che gli chiedi? Che fa il trenino? Ora lo deve fare. Ma certo, ma certo. Vabbè, vedremo. Ma prenderebbe certo. Prenderebbe Vauro in un suo giornale? No, a me proprio Vauro non mi piacerebbe, ma mi auguro che ci siano altri editori che lo prendano. non è che voglio dire siamo tutti uguali, lo considera siamo ancora per la politica, certo, delle differenze. Certo, lo considera ancora un servo di qualcuno? Beh, è un servo di una parte di un potere. E quale potere? Ma non certo quello della mia parte. Ma no, un altro potere. Vauro è uno libero, dice quello che gli pare, che gliene frega Vauro. Ma sì, è uno libero. Ma vabbè, sì, come libera lei? Come libera lei di a testa? Me non piace, come Vauro, ad esempio. Tutti le vignette di Vauro, alcune mi offendono. Il proprio editore che sarà orgoglioso, vabbè, di pubblicare le cose di Vauro. Io non ad esempio, auguro a Vauro, voglio dire, di fare una brutta fine. Auguro a Vauro di durare moltissimo, di guadagnare tantissimi soldi con le sue vignette e trovare sempre qualcuno che lo paghi. Ma è un'ultima cosa, il Corano lei lo farebbe entrare nelle scuole italiane oppure va bandito? No, non lo farei entrare assolutamente, non farei costruire più nessuna moschea, prima vorrei delle regole certe, vorrei che prima di costruire un luogo di culto ci fosse un registro degli imam, perché c'è spesso vengono in Italia e invece che sono delle star nel loro paese sono dei delinquenti, vorrei che il sermone fosse fatto in italiano perché sono predicatori dei predicatori di odio, vorrei che ci fosse la trasparenza dei bilanci delle moschee perché vorrei sapere chi è che gli dà tutto questi soldi, giustissimo, vorrei giustissimo. Tutto questo. E se suo figlio, si innamora di una musulmana col velo, che succede? Se mio figlio si innamora di una musulmana col velo, se c'è l'amore, voglio dire, va non bene è pure che a me piacerebbe che non portasse il velo, perché il velo è un simbolo di sottomissione, è una scelta di costrizione, non di convinzione, perché vi assicuro, se provate, io ci ho provato, che nessuno va in giro volentieri come una prigione portatile, capisce? Ma lei è portatile. Infatti non c'entra con l'Islam. Lei quello è collega che lei di, una, di, una, di un deputato islamico, è collega di un deputato islamico. Signor Chauki. Sì. Che parla tanto da moderato, andate a vedere che bel rapper che ha fatto e che bel video. Ma le si è e anche pentito. Dice di noi italiani. Si è pentito di aver fatto quel rap, ce l'ha detto a noi ieri. Si è pentito. Quando glielo ho detto stamattina, no, in televisione, lei dice, l'ha rivendicato. No, ha rivendicato, non ha, perché lei ha detto, gli ha attribuito delle parole che lui non ha pronunciato. No, io gli ho attribuito semplicemente la sua partecipazione a questo rap, che è una roba veramente di odio nei nostri confronti, perché se lei l'ha visto è solo come di no? odio. Sì, era molto brutto, e gli ho detto, questo è l'Islam moderato? Andatevi a vedere che bel video che ha fatto, e poi capite che è l'Islam moderato. E no, le cazzate le hanno fatte tutti, eh. Va bene, grazie, a presto. Baci. Grazie, ciao, a voi. Ciao, ciao. Saluti, cara. Salvatore da Roma, vai, forza, ascoltatori fino alla fine, 20 minuti di più, a rotta di collo ne voglio. Salvatore, buonasera, Roma. Ci diamo del tu, vai, del lei. 800240024. Del tu, dammi. Fai quello che ti pare. Allora, io mi riferisco subito alla telefonata di una signora politica con questo aforisma creato da me. Gli imbecilli hanno la sfortuna di esserlo e la fortuna di non saperlo, ok? Vabbè, allora? Adesso faccio a francese. Bonsoir, monsieur Cruciani. Bonsoir, monsieur Parenzo. Nous avons le mirage. Nous bombardons Gaddafi, nous bombardons le Chad, nous bombardons l'Iraq. Bombardiamo il Chad, l'Iraq, sì, però andiamo al sodo, su, non amico mio. No, caro. Ma che vuoi dire? Non ho capito, no, che vuoi caro, dire? No, caro, perché tu dimmi una cosa, sono stati i francesi a intervenire in Libia? Vabbè, ho capito, allora? Ci allora? Sono i francesi che ammazzano gli islamici. Vabbè, dunque? Dunque? Come dunque? E dunque dovresti tratto da solo? Da solo? Salvatore, dai, su, dammi uno spunto, una cosa. I francesi che bombardano la Libia, che intervengono in Libia, che vuol dire? Che se la sono cercata? Che cosa? Te lo sto dando lo spunto. No, non l'ho capito allora, vai. Come io francese, bombardo Tripoli. Io, islamico, bombardo Parigi. Vabbè, capito, ma tu sei fuori di testa, non c'entra assolutamente nulla. Tu sei un manipolatore demagogo dell'informazione. Quanta gente, quanti islamici, quanti musulmani hanno ammazzato i francesi? Me lo ma non c'entra niente, questa era la guerra discutibile. Era una discutibile guerra di uno Stato contro un regime. Non è una guerra di religione, è una guerra commerciale. Ma assolutamente, ma che c'entra? Non ma è una che c'entra? Di civiltà, è una guerra di interesse economico. E allora, caro, ti ricordo che quello ma questi hanno ammazzato 12 persone, no, hanno ammazzato 12 persone che non c'entravano niente, mica hanno ammazzato Orlando Sarkozy, Salvatore. Mamma mia, oh. Ma lei cosa ha bevuto stasera? Cosa ha bevuto stasera? Ti ricordo che per aver bombardato un mezzo di informazione, anche il compagno D'Alema, durante la guerra dei Balcani, ha bombardato Radio Belgrado. Vabbè, questo qua ha bevuto. Ma quanto ha bevuto lei? L'abbiamo perso. Dai. L'abbiamo perso. Questo è arrivato. È arrivato a D'Alema, a Belgrado, sì, ai bombardamenti del Kosovo. Siamo anche lì. Ho capito, sì, un cazzo ho capito. Fermo, fermo, aspetta. Ci vogliamo staccare? Io non ne potevo più da questi tre giorni di discussione infinita sull'Islam, sui terroristi, eccetera. Però che vuoi è fare? È tornata a parlare alla Nappi, amico mio, è tornata a parlare alla Nappi. No, ma è meraviglioso. Valentina Nappi, il metro io a Pansé. Io nei prossimi giorni andrò a Parigi, però, te lo faccio sapere. Ma non me ne frega niente dove vai. Il metro a Pansé della Zanzara, Valentina Nappi, meraviglioso. Quando vai a Parigi? Scusa, non ho capito. Forse parto già domenica, non lo so, che c'è la manifestazione con Renzi, o sicuramente lunedì mattina. Allora, Valentina Nappi, Parì. Ho perso la verginità, sì, certo, ho perso la verginità con che cosa? Sentiamo. Penso di aver perso la verginità in bagno con il pennone, quello multicolor. Poi sono arrivata alla porta sessuale proprio tranquilla, senza nessun dolore. Questo qua però devo dire la verità. Ecco, perché questi personaggi possono, non credo. Nei paesi islamici non possono esistere, devono scappare. Cioè, se Valentina Nappi fosse in Siria non potrebbe dire queste cose, mi sembra, no? Ecco, no, siamo in una civiltà, siamo in una zona del mondo. Anche in Cina. No, credo. In Cina non lo so. Siamo in una zona del mondo dove queste cose si possono dire in piena libertà. E ci mancherebbe altro. Ma è questa la cosa, è questo il punto fondamentale. Per il vibratore, però è uno dei buoni motivi per lottare. Cioè, no, Gianna Nappi ha spiegato con tranquillità su un sito internet, credo che sia Wired, che ha perso la verginità con un pennone multicolor. Cioè, con, sai quelle penne, no? Quelle penne della Bic spesso erano, credo. Sì, va bene, dei, con i colori diversi, no? La storia dell'umanità. Però scusa, è anche bizzarro, come si fa a perdere la verginità? È troppo piccolo, mi sembra, no? O sbaglio? Comunque vabbè, adesso non voglio entrare nel merito. E poi un'altra affermazione fondamentale, per cui si torna alla normalità della Zanzara con Valentina Nappi, è che la figa tira perché, secondo lei, se tira tanto la figa è perché non ce n'è abbastanza. Se il sesso fosse come l'aria, assolutamente gratuito, nessuno verrebbe attratto dall'immagine della figona che sta pubblicizzando lo spazzolino da denti. Questa è una teoria economica molto interessante da parte della signora Nappi, che può essere applicata a molte altre branche della conoscenza umana. Cioè, la figa tira perché non ce n'è abbastanza. Questo può essere corretto, Parezzo, che dici? Cioè, se ce ne fosse tantissima. Devi essere serio, dai, cerca di ragionare seriamente su questa cosa qua. Dal punto di vista economico, la dottoressa Nappi ha perfettamente ragione. Da un punto di vista strettamente. Siamo un attimo, la radio del Sole 24 Ore, facciamo un ragionamento. Esatto. Ti prego. Vorrei che però questo argomento venisse anche focalizzato, visto che il tema è economico. Dai, che torniamo alla normalità. Dai. Nell'approfondimento di Barisoni, magari domani. Beh, guarda che io vorrei consigliare a Barisoni qualche volta di invitare la signora Nappi quando verrà qui alla Zanzara prossimamente, spero. Sì. Farà un'incursione precedente al signor Barisoni per spiegare la teoria del perché tira la figa. Cioè, la figa, questo non credo che avverrà, però hai visto mai. La figa tira perché non ce n'è abbastanza, che è una teoria economica abbastanza semplice, anche come dire, banale, è no? Basic. È basic questa cosa, che abbastanza esatto. Cioè, essendoci poca disponibilità. È così. Può valere ovviamente per le risorse, per il petrolio. Può valere per tutto, non c'è dubbio. Sì. Ah, che bello tornare alla normalità anche dopo stragi, quello. Uccisioni, analisi e cose. E lo faccio da parecchio. Amici miei, siamo al top. Io lo sospettavo, non che fossimo al top, che per esempio la mamma e lo zio la minacciano di morte. La mamma e lo zio la minacciano di morte. Beh, non so, che fossero incazzati, sì, addirittura la minaccia di morte, forse no, comunque. Vabbè, sono sempre stata la pecoraria della famiglia, è semplicemente questo. faccio. In realtà sono sempre stata così, per quando il problema di mia madre, sapeva com'era la vita sessuale. Il problema è quando diventa pubblico, è sempre quella la storia. E mia madre e mio zio praticamente vennero a casa quasi a minacciarmi di morte. E io all'epoca mi chiamavo soltanto Valentina e poi aggiunsi Nappi. Vedi la differenza vera poi alla fine che c'è tra i paesi islamici e i paesi come il nostro. Hai fatto bene a ricordarlo, perché lo sai ad esempio, qual è? No, aspetta, lo sai qual è? No, è questa sicuramente, ma è anche un'altra. Per esempio, esiste un'agenzia di turismo gay. Può sembrare una follia, ma giustamente ci sono delle agenzie specializzate nel turismo omosessuale. Cioè consigliano i gay ad andare in alcuni paesi a visitare certi posti. E addirittura c'è una guida per una guida gay alla Cappella Sistina. Ti giuro. Molto bello. Un'agenzia dice: noi vi raccontiamo la vera storia che nessuno racconta. E leggono la storia dell'arte, la storia architettonica della Cappella Sistina e di altri monumenti in chiave omosessuale. Per esempio, cosa dicono? Che l'Apollo del Belvedere era un twink e il torso del Belvedere un bear, un orso. Il twink in gergo gay significa un omosessuale febico e un bear invece è uno molto virile. Cioè, secondo la spiegazione di questa guida, Michelangelo avrebbe dipinto il Cristo giudice della Cappella Sistina pensando a un twink per il volto e a un bear, cioè a un orso, per il tronco. Insomma, una sorta di Gesù omosessuale. Ecco, vedi, queste robe qui, in un paese islamico, cioè nessuno sognerebbe mai di fare una guida gay ai luoghi di culto islamici, perché non potrebbe esistere, mi taglierebbero la testa immediatamente. Non c'è dubbio. Ecco, la differenza vera tra la nostra società e quella lì, e quella di alcuni paesi, è esattamente questa. Noi abbiamo Valentina Nappi, loro non potrebbero averla. Una simile Valentina Nappi, tra l'altro anche simile nel fisico, che è quella super porno star di cui vi ho parlato nei giorni scorsi, minacciata di morte dai fondamentalisti, deve scappare. Adil, provincia di Treviso. Pronto? Vai. Ciao Giuseppe. Oh, finalmente hai cambiato discorso. Sì, in che senso, scusa? Ci parli di Valentina Nappi, ci parli di fighe. Beh, amico mio, che devo fare? Ma tu di che religione sei, scusa? Io di religione islamica. Ah, sei islamico? Sei marocchino, bravo. Sei islamico, ma sei, come dire, te piace la figa, diciamo la verità, caro Dio, tanto, no? Tanto, mi piace l'arte. L'arte in che senso? Con l'italiana. Ti piace? Mi piace la figa. Ti piace? Vabbè, d'accordo, va bene. Non sarà l'unico al mondo. No, assolutamente. No, no, no. No, no, assolutamente, anche tra gli islamici, così, eccetera. Ma consideri, non da questo punto di vista, la società, diciamo, islamica, i paesi islamici molto arretrati, immagino, no? Molto maschilisti, bravo, o sbaglio? Bravo. Cioè, che ne pensi di quei criminali lì che hanno fatto quella strage? Ne penso, sono stato male. Ma scusami, tu sei ancora praticante islamico oppure no, signora Dill? No, ci credo, ma non pratico. Non pratichi? Non pratico, perché quando mi sveglio al mattino ci penso quanti soldi ho in banca e basta, hai capito? Altro no. Vabbè, Adile, che mi volevi dire? Ho fatto male, che ti devo dire? Che mi volevi dire? Fighe, basta, sai la differenza tra la zanzara e la figa? Qual è? È che la zanzara non puoi carezzare la testa mentre succhia. Beh, amico mio, non c'era bisogno, diciamo, di fare questo. Nicola da Pescara, è questo che voglio sentire, Giuseppe. Lo so, vuoi sentire? Rotto il coglione, Parigi, Roma. Capito, ma che devo fare, fratello, amico mio? Fratello, ammazzano, diciamo, la gente. Non è che siccome non hai vissuto in un paese come ho capito, ma siamo pur sempre a Radio 24. Non è che possiamo occuparci. Io ho capito che tu hai vissuto per anni in un paese in cui questo non era argomento quotidiano sui media, diciamo, no? Però non è che puoi chiedere a noi ogni giorno di trattare di questi temi. Vabbè, Nicola da Pescara, ciao Adil, ciao fratello. Nicola, ciao. Vai. Ciao Cruciani, buonasera a te. Dimmi. Anche a ciao. Io volevo dire ciao, solo una cosa, si parla di satira, tanto di satira. La satira è una forma di giornalismo che è fatta di provocazione fondamentalmente, ha sempre dietro o qualcosa di politico, o qualcosa di sociale. La chi fa satira, blasfema, tra virgolette, ha di fronte un pubblico fruitore che è diverso dal... Allora, faccio un esempio, no, non ti sta incartando, scusami. No, non mi sto incartando, ascolta, la Littizzetto quando fa satira, sì, da chi è ascoltata? Dagli italiani. Ma non lo so, sì, non lo so, dagli italiani. Gli italiani hanno senso degli humor. La satira verso i fondamentalisti provoca una reazione violenta da parte di gente che non ha né senso dell'humor. Vabbè, e certo, questo non c'è, che non abbia, non c'è senso dell'humor, su allora, questo non c'è dubbio. Quello che volevo dire è che i giornalisti che si sono immolati, perché si sono immolati, erano stati avvisati tantissime volte, sapevano a cosa andavano incontro, quindi la barbarie che è venuta spontanea è una cosa deprecabile, per l'amor di Dio, terribile, ma era un pochino prevista. Bah, so, sì, le cose previste, a me mi ha stupito il fatto che questi erano poco protetti, questo mi ha stupito. È bravissimo, volevo arrivare lì. Cioè, è possibile che in Europa, in Italia, si difendano personaggi politici che non contano un cazzo? Non c'è dubbio. Non c'è e dubbio. Non riusciamo a... Vabbè, Europa non credo, in Europa, ci sono, in Francia ci sono meno scorte rispetto all'Italia. Comunque è vero che io penso, poi non lo so perché da qui non si può giudicare, credo che si potessero difendere meglio e credo, per esempio, che in un paese come gli Stati Uniti, uno che ha avuto precedenti, delle persone che hanno avuto precedenti come quelli che oggi sono stati uccisi, non potevano nemmeno stare in quel paese. Cioè, è impensabile, uno poi può giudicare nella nostra società più libera rispetto a quella americana. È impensabile, totalmente impensabile, che uno che ha avuto legami, stava per andare in Siria o in Iraq, è andato, come uno dei fratelli là, Ciucciachi o come si chiamano. Io lo dico così per pigliarli per il culo, tanto ormai sono morti. Sì, però guarda, gli ostaggi, ad esempio, che sono morti, ce l'hanno sul groppone i francesi. Ma adesso questo certamente sarà così. Perché è una conseguenza. Però una sto conseguenza dicendo, mi stupisce, questi però... qua, se fossero, non potevano circondare in un paese come l'America, questi qua non è impossibile che fossero lì. Questo è il punto fondamentale. Assolutamente, però, sono d'accordo con te. Però a me c'è uno che ha quei precedenti, circola liberamente in un paese, ma è evidente che è follia pura. Poi sapendo che il bersaglio è lì, libero, tranquillo. Cioè, questi non possono. Quando uno ha tentato di arruolarsi in Iraq attraverso la Siria, viene da quel paese, deve essere cacciato. Va bene, poi si parlerà in questi giorni degli algerini che avevano avvisato la Francia dell'imminente pericolo. Tutte cose oppure che si può dire oggi, come Mandarà, siti, come il nostro amico Mandarà. No, non si può citare Mandarà. Aspetta. Senti, i cattivi a Parigi sono stati giustiziati. Ora giro di vite e nuova guerra, ammazza che efficienza, anche in Europa propaganda hollywoodiana. Tutti a parlare delle vignette come se fossero la vera causa della strage di Parigi, i media fritto misto di criminali ed utili idioti. Cioè, non ho capito, caro Mandarà, mancano pochi minuti, se vuoi fai una telefonata, fai uno squillo, qualcuno ti avvertirà, anche no, dici? Ma qual è cosa c'è dietro allora? Cioè, ma te lo chi è il Mandarà? Burattino? No, secondo lui, Mandarà? Secondo lui, chi è il burattino dietro? Sì, perché tutta questa è una messa in scena? Perché una messa in scena? C'è il signor Ali. Signor Ali da Genova. Buonasera, signor Ali. Sì, buonasera. Dimmi, caro, dimmi. Niente, volevo dire a proposito di quel signore che ha chiamato, ha minacciato un po' tutti. Sì. Che non è da meravigliarsi, diciamo, di queste minacce, perché da quando è nato Islam chi sta minacciando è praticamente con le minacce, con, diciamo, trasportare la paura che ha potuto diffondere Islam. Questo è proprio chiaro. Ma lei è islamico? Tanto per dire, sì, è un ex, diciamo. Ex, in che senso? Si è convertito al cattolicesimo, è diventato ateo, non gliene frega più un cazzo. Non gliene frega più niente della religione. No, come me, ottimo. Quello che devo capire è che... Ottimo, che le religioni sono tutte... Esatto, tutti uguali. No, non sono tutti uguali, adesso questo no. Ma no, in senso che questo non credo. Un'ideologia, perché... Allora, le religioni è un fatto personale. Vabbè, chi d'accordo. Ce l'ha, e io non chiedo nemmeno che religione hai, che fede hai, perché è un fatto personale. Però chi dice io sono islamico, io sono cattolico o io sono ebreo, già comincia a praticamente a dividersi con tutto il mondo, già comincia praticamente a differenziare le cose. Vabbè, non dobbiamo, infatti non mi meraviglio di aver ricevuto quelle minacce. Ma che problema c'è a differenziare? Ma non ho capito, che problema c'è a rivendicare un'identità? Io sono italiano, sono ebreo, non è la stessa cosa, italiano, ebreo, che c'è tu, no, per dire io sono vegano, ma che problema c'è? Non ho mica capito. Adesso improvvisamente no, è la religione, è il veganesimo, un'altra cosa. Guardi, no, ma sto per dire, cioè, dico le identità, anche, che male c'è a rimarcare le identità? Se i diritti uguali per tutti, evidentemente, anche ideologie, perché a nome del comunismo hanno fatto peggio che diciamo praticamente in Unione Sovietica. Cosa è successo con Stalin? Non era mica musulmano, ha ammazzato la sua gente. Ma certo, ma questo, ma che c'entra? Aveva c'entra un'ideologia, aveva un, la stessa. Vabbè, certo, cosa. Gli estremismi, ma le ideologie, ma questo non c'entra. Quelli islamici moderati non esistono. Islam è contrasto con la modernità. Basta leggere il Corano, non si. Beh, questo lo dice un islamico, lì. Però, signora lì, non è interessante. È tutto lì, è tutto scritto lì. Tu a tua moglie lo puoi anche picchiare con bastone. È scritto sul Corano. Parenzo, ascolta il signor Alì. Io ma non sto dicendo il contrario, io dico che se i fondamentalisti islamici esistono, li vediamo, fanno appelli in televisione, certo, tagliano le gole, ci sono, islamici, il fondamentalismo islamico esiste, poi esiste anche l'Islam, però non è ma che esiste solo il fondamentalismo islamico. Islamici, ma, non tutti, ma questo è evidente sono che sono fondamentalisti. Ma mi sembra scemo, però, scusa, ma è evidente che qualcuno ha negato l'esistenza del fondamentalismo, io almeno, qualcuno forse l'avrà fatto, ma qualcuno ha negato l'esistenza del fondamentalismo. Dicendo che l'Islam ha nel suo seno siccome, ha i germi del fondamento, i germi dell'estremismo. E io ti sto dicendo che ogni lettura Corano, di ogni basta leggere il Corano che dice fate se, paura anche fate, se interpreti cioè, l'Antico Testamento e il Nuovo guardi, Testamento in modo letterale, scusi, dovresti lapidare gli omosessuali. Qualcuno lo fa, no, per fortuna, sì, anzi in Arabia Saudita purtroppo lo fanno, ma scusi, e anche in altri paesi. Maometto come ha conquistato la Mecca? La sua tribù non la accettava, non la volevano, è venuto con un esercito, 10.000 persone, ha detto ok, accettate l'Islam o che noi praticamente decapitiamo tutti. Vabbè. Lì che hanno accettato Islam. Ho capito. La sua tribù non ha accettato. Va bene, lì, ti abbraccio, ciao. Praticamente. Ciao. Salvini contro Fulvio Abate, non dica che è un bottino. Sentite. È che il suo momento, diciamocelo francamente, perché da questa storia un bottino di voti sicuro. E forse gli è sfuggito quello che ho detto poco. Ma anche questo non ci sta, mi permetta. No, solo cosa questo. Cosa non ci sta? Perché questo per me però è insopportabile. Non ci sta il bottino credo. Di voti. E siccome aleggia sta cosa, chissà come è contenta la Le Pen. Quasi che Salvini sia contento dei 12 voti. Ho detto un'altra l'ha scritto cosa. Su questo, ma non dico lei. Vogliamo risentire Ferrara? Abbiamo sentito solo una volta Giulianone, Risentiamo Giulianone, dai. Io già detesto l'espressione terrorismo islamico, nel senso che questo è terrorismo che si rifà a un Islam radicale. L'Islam radicale non è terrorismo, è un universo. È guerra santa islamica contro l'Occidente cristiano e giudaico. Ma quando lo vorrete capire? Ma fatta da terroristi. Guerra santa. Fatta da terroristi. Fatta da terroristi. Fatto da commercianti. Fatta da terroristi. Fatto da giovani delle banlieue. Fatto da intellettuali. Da tutti. Dei servizi segreti. Oh, fatto da eserciti. Fatto da califfi. Ma ancora non l'avete capito. però, ma che devono fare ancora per fare io dico che ma che cazzo dici terrorismo? Aspetta, guerra santa islamica sì. contro l'occidente cristiano e giudaico allora. E se negate queste cose siete un branco di coglioni no, cosa dice? Preferiamo essere preferiamo essere un branco di coglioni che ragionano ancora con la loro testa tranquilli no il non c'è problema. Allora, Enrico da Padova, vai. Sì, ciao. Niente, io ti volevo solo dire che sono incazzato nero per una semplice ragione, perché tutti i grandi soloni, gli editorialisti, i giornalisti di questo paese non hanno centrato un punto fondamentale che spiega il perché avvengono questi attentati e il perché abbiamo un Islam radicale. Noi che dobbiamo partire dalle nostre culture, dalle nostre conoscenze, non capiamo che l'Islam non ha un papa che è un'autorità assoluta che interpreta la Sacra Scrittura per evitare fraintendimenti o quant'altro. Nell'Islam non c'è un'organizzazione gerarchica delle autorità religiose che dice bene i principi cardini. Sì, no, è vero, questo è vero. E contro questi non si deve andare. Quindi gli attentati sono islamici. Perché? Perché non c'è un'organizzazione gerarchica delle autorità religiose. Ed è questo il problema è loro, non è nostro, sono loro che si devono organizzare a livello gerarchico per potersi amministrare in maniera tale che non accadano interpretazioni sfoglianti con scuole coraniche, imam che interpretano le sacre scritture come cazzo vogliono, questo è il problema e mi stupisco che non ho visto un rigo su qualsiasi giornale. Ma io ho sentito un sacco di cose di questo tipo, ho letto un sacco di cose di questo tipo sulle differenze che ci sono tra il cristianesimo, il cattolicesimo e l'Islam, ma beh, guardi, certo. No, non ho letto a decine di queste analisi qua. Andrea da Roma. Salve, buonasera. Vai. Io se sento tutte queste cose io divento matto. Perché? Ragazzi, qua c'è la religione ha pervade la vita della gente. Gli islamici non campano perché devono andare coi veli, non devono mangiare la carne, non devono bere, non devono fare. Poi quando vengono qua fanno di tutto. Noi siamo schiavi della Chiesa e siamo in questo livello, non italiani, siamo succubi della Chiesa da una vita e siamo assolutamente antimoderni, noi siamo ancora indietro anni luce rispetto al resto dell'Europa e noi stiamo ancora a chiacchierare sul fatto delle religioni. Adesso sentivo il signore prima che diceva adesso voglio chiudere facendovi sentire questa canzone, vi voglio lasciare un po' nella suspense perché magari ne parliamo lunedì, la trovo eccezionale perché è una presa per il culo di alcuni estremismi, di alcuni luoghi comuni, eccetera, eccetera. Vi lascio con questa canzone. L'autore si chiama Andrea Di Marco. E noi ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao. Mi stanno sul cazzo gli zingari perché non pagano sull'autobus. Con le bambine che rubano, non hanno voglia di sbattersi, il nostro rame si prendono, sono sporchi che non si lavano, se gli dai contro poi ti picchiano, sono tutti così, ma tutti? Sì, eppure quelli dell'Ecuador, che vanno al parco con il barbecue, come le merde si ubriacano, lasciano sporco e si accoltellano, mi stanno sul cazzo gli islamici, con quelle barbe lunghe mi spaventano. Il loro scopo è distruggerci, ridurci tutti in schiavitù. Odio i cinesi e gli asiatici, che non li vedi mai quando muoiono. Con valicette di contante tutto comprano. Sono tutti così. Radio 24. La passione si sente.